Dunque, salve a tutti, buon pomeriggio. Direi di cominciare i lavori con un po' di ritardo. Un ritardo dovuto tra l'altro, lo dico subito così mi tolgo il pensiero, a questo problema della giacca e cravatta che appunto ha bloccato alcuni di voi sotto appunto all'entrata. Ripeto a tutti, ovviamente chi oggi ha fatto l'esperienza di essere bloccato se lo ricorderà, quindi la prossima volta si presenterà in giacca e cravatta, tuttavia per appunto correttezza e per comodità ripeto che per entrare qua è necessario appunto avere la giacca e la cravatta, sebbene il prossimo appuntamento, che vi ricordo subito, che sarà dedicato alla conoscenza come bene comune, non si terrà qui ma si terrà alla sala conferenze dell'ex Hotel Bologna, che è comunque qua vicino, però appunto la sede è un'altra. Allora, per quanto riguarda invece i lavori di oggi, il tema, lo avete visto nel programma, è la tragedia dei beni comuni. La tragedia dei beni comuni è il titolo di un famosissimo articolo di Garrett Hardin del 1968. Siamo partiti da lì perché appunto è un articolo che è stato molto discusso, che ha aperto insomma il tema, sebbene appunto molto discusso significa anche criticato per moltissimi suoi aspetti nell'abstract che il professor Bevilacqua ci ha inviato, abbiamo già appunto visto che questa sarà l'impostazione. Quindi appunto i beni comuni in questo senso legati come appunto da interessi e propensioni dell'epoca molto alla dimensione del rapporto popolazione-risorse, quindi appunto tutto il dibattito del neomalthusianesimo che tra anni 60 e anni 70 insomma guidò la prima riflessione intorno all'esauribilità delle risorse. Ricordo il famosissimo testo Il cerchio da chiudere del 1972, che aveva anch'esso un'impostazione così, che si poneva il problema delle risorse ambientali a partire dal problema della popolazione, del rapporto tra crescita della popolazione e esauribilità delle risorse. Quindi siamo partiti da questo testo, insomma non fosse altro perché lo slogan è uno slogan che rimane, il titolo insomma è diventato uno slogan, quindi siamo partiti da là per affrontare appunto più specificatamente rispetto alle altre giornate il problema appunto dei beni ambientali, dei beni comuni ambientali, naturali. E quindi appunto oggi affronteremo questo problema, anche se ci tengo a dire, poi non so se oggi appunto riusciremo insomma a tenere dentro tutti i temi che avevamo in mente quando abbiamo pensato questa e le altre giornate, però appunto nella presentazione della giornata, sotto lo stimolo di alcuni di noi, era emersa anche la domanda. Aspettiamo che lei si accomodi. Era emersa anche la domanda intorno a quale tragedia, di quali beni comuni adesso dovremmo parlare, cioè se appunto l'impostazione data all'epoca è un'impostazione che tuttora appunto a noi può servire non soltanto appunto per questa appunto centralità del problema popolazione risorse, per l'approccio dicotomico tra autorità centrale e mercato che pone, tra l'idea della insomma tra tutte le cose che credo poi usciranno fuori, ma anche se appunto la tragedia, cioè nella tragedia dei beni comuni adesso non ci sia anche molto altro rispetto a quelli che segnalava Hardin all'epoca. Detto questo, passerei la parola al professor Bevilacqua. Anche oggi, come in tutte le altre occasioni, abbiamo la fortuna di avere esponenti autorevoli dell'intellettualità italiana, quindi non mi dilungherò nella presentazione immaginando che li conosciate già. Comunque il professor Bevilacqua è docente di storia contemporanea alla Sapienza, ha dedicato molti studi alla storia dell'ambiente, anche diciamo, di sintesi. Anche, a questo proposito, rispetto alla bibliografia che avete avuto insieme ai curricula, che, insomma, al foglio di curricula che gira, vi segnalo La Terra è finita, breve storia dell'ambiente, che è uscito con La Terza nel 2006. Sì, no, è un altro. La Terza, sì, quella, diciamo, è una delle poche cose che a memoria mi pare, sono abbastanza sicura che sia. E quindi, detto questo, insomma, ricordato questo testo, che è un testo importante, insomma, che segnala la lettura, darei la parola al professor Bevilacqua. Bene, grazie a Katia Pappa per questo. Grazie a Laura Pennacchi che mi ha coinvolto. Io faccio molto volentieri, tempo permettendo, questo tipo di incursioni, perché il nostro lavoro ha un senso, diciamo, lavoro di storia dell'ambiente o dintorni, ha un senso se riesce a raggiungere un largo pubblico e se non si limita agli addetti ai lavori. Io, essendo uno storico, farò un po' di storia. Allora, la prima cosa da dire è che i beni comuni nella tradizione del pensiero sociale europeo si presentano alle origini sotto la veste dei commons, cioè delle terre comuni. E questa tradizione di pensiero sociale viene largamente dominata da Marx, nel senso che Marx, in un celebre capitolo del primo libro del Capitale, esattamente il 24esimo, a introdurre questo tema, cioè il tema delle terre comuni, che appartenevono, diciamo, agli yeomans, ai piccoli contadini inglesi, e la cui, diciamo, recinzione, la cui sottrazione alle comunità contadine è un po' alla base della nascita del capitalismo. In quel capitolo Marx, per l'appunto intitolato La cosiddetta accumulazione originaria, si proponeva il compito di spiegare le origini di questo nuovo modo di produzione, cioè com'è che a un certo punto è nato il capitalismo con, no, la proprietà privata, la contrapposizione tra lavoro e capitale, eccetera. E Marx ricostruisce un lungo periodo storico che va dal XVI al XVIII secolo e mostra come una delle costanti, diciamo, uno dei fondamenti del nuovo modo di produzione è la sottrazione dei beni comuni ai contadini, i quali a un certo punto non hanno che da vendere le proprie braccia, essendo stati privati sia della piccola proprietà e del cottage, sia delle terre comuni, usi civici, eccetera, e saranno costretti a entrare in fabbrica e a formare, diciamo, la moderna classe operaia. Allora, quindi, diciamo, questo termine, beni comuni, però ha avuto una storia molto curiosa, potremmo dire ha avuto un vero e proprio capovolgimento, perché il concetto di beni comuni non ha avuto nella storia europea e soprattutto nella storiografia, devo dire, questo lo devo dire anche autocriticamente, non ha avuto, diciamo, la positività che oggi vogliamo assegnare a questo termine, perché gli storici, anche quelli di ispirazione marxista, hanno visto negli usi civici, nei demani comunali, nei beni patrimoniali dei comuni, nelle società, nelle università agrarie, in tutti i diritti consuetudinari, hanno visto degli impedimenti al libero affermarsi della proprietà privata capitalistica, portatrice di efficienza, di modernità, di trasformazione profonda degli antichi assetti feudali o semifeudali delle campagne, e quindi, diciamo, il capitalismo come teleologicamente, no, il fine della storia agraria dell'Europa. E quindi diciamo che la storia, la ricerca storica, l'atteggiamento degli storici ha veicolato diciamo, questa ideologia filocapitalistica, no? Cioè questo tipo di interpretazione secondo cui bisognava distruggere le antiche consuetudini, no? Il diritto di legnatico, il diritto di pascolo, il cosiddetto compasco, tutta una serie, io non so qual è il livello, diciamo, di informazione del pubblico, tutti questi diritti delle antiche comunità rappresentavano un ostacolo a una forma moderna di conduzione dell'agricoltura e di sfruttamento della terra. Quindi a lungo nella cultura storica europea noi abbiamo avuto questo accoppiamento per cui beni o questo disaccoppiamento beni comuni contrastavano con la modernità. Beni comuni erano il contrario di sviluppo. Quindi il capitalismo contemporaneo, secondo me, ha potuto fondare una parte cospicua della sua egemonia esattamente su questo disaccoppiamento, no, storico. Man mano che ci si liberava di tutto ciò che era comune, man mano che trionfava l'individualismo agrario, si avanzava verso la modernità, l'efficienza, il progresso. Allora, e qui arriviamo alla tragedia dei beni comuni. Diciamo, a lungo questo tema è stato seppellito, no, nella coscienza collettiva come un dato acquisito, no? Era normale che i beni comuni scomparissero e che il modello fosse quello della libera impresa privata e capitalistica. E Garrett Hardin, come ricordava Katia Papa poc'anzi, e nel 1968, appunto, su Science, questa rivista diciamo molto autorevole, pone questo problema, cioè il problema, appunto, il saggio si intitola The Tragedy of Commons, un saggio che, lo dico senza nessuna iattanza, a rileggerlo oggi stupisce per l'enorme successo che ha avuto, stupisce per la fragilità teorica del costrutto, per le contraddizioni evidenti e anche per le ingenuità, però non stupisce più di tanto il successo perché noi dobbiamo, io sono uno storico, devo tenere d'occhio la data, è il 1968. Cioè, con grande precocità questo biologo pone un problema malthusiano, no? Tipico problema malthusiano, cioè del rapporto tra popolazione e risorse, prima degli anni 70, perché l'ecologia, il dibattito ecologico esplode nei primi anni 70, con Monner, con la Carson e così via soprattutto. E poi dopo il 73, come sapete. Lui scrive nel 68 e pone un problema vero, cioè quello del rapporto tra popolazione e risorse. Allora, una cosa che voglio dire, uno forse... il secondo merito da sottolineare, a parte la precocità del rilievo dato a questo tema, è che Hardin esclude che il progresso tecnico possa essere la soluzione al problema che lui pone. Che è interessante, perché vedete, tutta la retorica di oggi è che grazie alla tecnica risolveremo tutto, anche ovviamente il problema del nucleare, no? E aggiunge che Hardin, che non c'è un altro pianeta, che lo spazio è limitato, anche questo bisogna sottolinearlo come un aspetto centrato. Guardate, io sono non un appassionato, esagererei, ma l'astronomia mi piace molto, mi affascina perché mi trasporta in mondi. Ma quando sento parlare di esplorazione spaziale e sento alludere alla possibilità di colonizzare altri mondi, mi arrabbio, no? Perché è implicita l'ideologia che noi possiamo distruggere la Terra, che abbiamo dei pianeti di riserva a portata di mano dove ci potremmo naturalmente trasferire. Ecco, perfino Margherita, che mi diventa antipatica quando si allude a queste cose, Hardin esclude questa possibilità. La Terra è questa e dobbiamo fare affidamento sui suoi spazi limitati e sulla sua finitezza. Allora, che cosa racconta Hardin? Hardin centra la sua riflessione sull'immagine, su una figura, che è la figura di un pascolo aperto a tutti. Sostiene Hardin, finché c'è guerra e carestia che decimano la popolazione, non c'è nessun problema, perché la popolazione è scarsa e lo spazio finito del pascolo aperto non pone problemi. Aggiunge Hardin, però se la popolazione cresce, se non ci sono le carestie, non ci sono le guerre, come essere razionale, cito, come essere razionale ogni pastore che ha accesso al campo aperto, ogni pastore cerca di massimizzare il proprio profitto, cioè cerca di aumentare il numero di pecore da immettere nel campo per guadagnare di più. Allora, una prima critica. Come essere razionale, parla di essere razionale Hardin, e questa è naturalmente una eternizzazione astratta dell'homo economicus, no? Cioè, lui parla lo vedremo anche più avanti in altre espressioni rivelatrici, lui parla di questa realtà storica che è il campo aperto. L'essere razionale è naturalmente l'imprenditore capitalistico, no? Che cerca di massimizzare il proprio profitto, ma da un punto di vista storico questo è insostenibile. Cioè, gli uomini hanno vissuto per secoli, talora per millenni, utilizzando beni comuni con un'altra razionalità economica, che non era la razionalità del massimo profitto capitalistico. Questa è una sovrapposizione indebita di carattere ideologico di chi guarda al proprio tempo e immagina che la razionalità e le culture che oggi dominano siano state sempre così. Invece così assolutamente non è. Le popolazioni che godevano del bosco ricorrevano ai turni per utilizzare il bosco, cioè pensavano alla riproduzione delle essenze boschive, curavano la riproducibilità del bene. C'è Paolo Cacciari, che è veneziano, mi fa venire in mente gli studi lontani miei che ho fatto su Venezia. A Venezia c'erano dei turni per la pesca, e addirittura si seminava il pescato, cioè si raccoglieva il pesce novello dalle paludi e lo si metteva in laguna per allevarlo. Cioè c'era una razionalità economica che era lontanissima da quella predatoria del nostro tempo. Quindi dare un calco della nostra razionalità di oggi sul passato è scientificamente insostenibile. E vi do qualche altro esempio di questa caduta, no? Teoretica grave da parte di Hardin. che non è del solo Hardin, come sappiamo, no? Cioè, tutte le scienze sociali che ricorrono a modellistiche, teorie dei giochi, eccetera, come dire, assolutizzano la razionalità dell'uomo economico se la applicano a tutto, anche a tutto il passato. Dice Hardin: ogni uomo è prigioniero di un sistema che lo obbligano a decrescere illimitatamente la propria mandria in un mondo finito. Ma chi l'ha detto? Questo è l'uomo di oggi, no? È l'uomo di oggi. Questa tendenza porta, sono sempre parole di Hardin, la rovina è la destinazione verso la quale tutti gli uomini si affrettano, ciascuno perseguendo il proprio massimo interesse in una società che crede nella libertà di accesso ai beni comuni. Questa libertà porta alla rovina di tutti. E la società americana del suo tempo, diciamo, proiettata in una dimensione astorica, è assolutizzata. Allora, cerchiamo di fare, per quanto possibile, nel breve spazio di una comunicazione, un po' di chiarezza anche da un punto di vista concettuale. Partiamo dal concetto stesso di bene comune. Lo stesso Hardin, devo ricordare, nel 1992, in un articolo pubblicato su The Economist, ammise, come dire, l'incertezza concettuale del termine che egli utilizzò. Per esempio, riconoscendo che una cosa sono le risorse al libero accesso, per esempio il pascolo in un villaggio, un'altra cosa sono le risorse comuni indivisibili, no? Per esempio l'energia solare, l'aria, i mari, fino a un certo punto era stato anche l'acqua, no? La biodiversità, oggi i saperi e così via. Tuttavia io credo che l'errore forse più clamoroso di questo scritto di Hardin consista nella conclusione e nella proposta, diciamo, che lui avanza per porre rimedio alla tragedia dei beni comuni. Una, vabbè, è la limitazione delle nascite, ma su questo lui si sofferma poco. L'altra proposta è la sostituzione dei beni comuni con la proprietà privata. Cioè, questo è veramente clamorosa come trovata, no? Perché è clamorosa? Perché lui propone come soluzione la società capitalistica fondata sulla proprietà privata, cioè esattamente quella che sta producendo il collasso delle risorse planetarie, no? Io osservo un altro aspetto. Diciamo, restando fermi alla sua immagine di bene comune, cioè il campo aperto a tutti i pastori, quindi se le risorse sono questo campo, il fatto che questo campo venga assegnato, dato in proprietà a un singolo proprietario, vuol dire che sì, probabilmente il pascolo verrà conservato, ma se la popolazione aumenta tutti gli altri pastori moriranno di fame, perché sono esclusi. Ma questo non è un discorso che regge se noi pensiamo alla totalità del pianeta, se noi pensiamo a tutta la Terra. Che fanno quelli che non hanno la proprietà privata? Finiscono appunto come i pastori che non hanno accesso alla terra. Quindi è una non soluzione, no? Cioè, è la guerra, diciamo, perché naturalmente chi resta a dominare risorse sempre più scarse verrà attaccato da chi ne rimane escluso. Non c'è altra via d'uscita. Però ecco, io non insisterei più di tanto su Hardin, perché appunto è utile come stimolo alla discussione, eccetera, ma ovviamente non offre soluzioni, e anzi può essere al contrario controproducente. Però io, ecco, vorrei soffermarmi un attimo, facendo ancora anche in questo caso un po' di storia, al fatto che il concetto di bene comune si è affermato, si è venuto affermando anche per processi culturali di cui sono stati i protagonisti i saperi ecologici in senso molto lato. Adesso diciamo dovrei soffermarmi un po' di più sulle origini, ma non posso farlo casomai a livello di discussione. Io ho, come ricordava Katia Papa, mi sono occupato di storia dell'ambiente e ho trovato due grandi supporti teorici nei miei percorsi di ricerca. Lo dico con grande onestà, sperando che la cosa abbia una circolazione. Uno di questi è un'opera in tedesco di un autore che io vanamente ho cercato di far tradurre in italiano, sono riuscito solo a far tradurre da Donzelli un'opera divulgativa che si intitola Economia della Natura. Questo autore è Hans Immler, senza l'H davanti, e si intitola Natur in der Ökonomischen Theorie, la natura nelle teorie economiche, che è un libro secondo me straordinario, da Aristotele sino a Marx, passando per i fisiocratici, su cui scrive delle pagine di grande interesse. Quest'autore mostra come la teoria economica si sia fondata storicamente su una colossale rimozione della natura. L'economia che usa natura costantemente, che è, io dico, una ecologia inconsapevole, l'economia, questa rimozione colossale ha portato anche, diciamo, a una cultura assolutamente incapace di fronteggiare i problemi ambientali che abbiamo di fronte. L'altro grande autore è un filosofo che tutti conoscete, che è Edgar Morin. Edgar Morin che, diciamo, dovrei metterci anche un amico di Ugo, che è Friedrich Capra. Vi raccomando un libro straordinario che è Il punto di svolta, dove io ho trovato, così, una visione della natura e anche una critica alle scienze riduzionistiche di straordinaria efficacia e di una chiarezza espositiva davvero, davvero esemplare. Allora, questi saperi hanno messo in evidenza l'esistenza di flussi naturali che producono ricchezza, no? E che sono alla base della vita, e sono ricchezze che si producono senza nessun intervento del mercato. Io ricordo qui di passaggio un articolo di Robert Costanz su Nature, sulla ricchezza prodotta dalla natura. Pensate, il sole e la fotosintesi, il ciclo di purificazione delle acque, no? Che avviene in maniera del tutto naturale. Io aggiungo la chimica della terra. L'uomo coltivatore butta il seme, ma chi lo fa germinare nel buio, diciamo, del laboratorio chimico del suolo è la natura, no? Sono tutta una serie di processi che avvengono gratuitamente, la biodiversità e quindi la catena alimentare, sono tutti processi che sono, diciamo, i beni comuni che esistono al di fuori del mercato, al di fuori del nostro intervento, al di fuori delle nostre preoccupazioni economiche, e che sono alla base di ogni ricchezza. Cioè, senza di questi, le merci, la produzione di merci non è possibile, e si tratta tra l'altro di beni che non sono singolarmente sfruttabili, lo sono in parte, ma sono soprattutto non privatizzabili. E questo, diciamo, l'avanzare di queste concezioni scientifiche, questa scoperta della natura come ricchezza economica, hanno fatto penetrare nel dibattito pubblico una visione, no, meno privatistica della ricchezza, no? Diciamo che questi saperi hanno favorito un po' il diffondersi polisemico del concetto di beni comuni. Mattei ne parla nel volume curato da Cacciari in alcuni passaggi e vi rimando, diciamo, anche oltre alla bibliografia che avete, a questo volume. C'è un ulteriore passaggio da sottolineare rispetto a questo contributo dato dalle scienze ecologiche all'affermarsi di una visione dei beni comuni al di là, diciamo, dell'economia privatistica che domina il nostro tempo. Vedete, la scienza tradizionale ha frantumato il mondo, no? Lo ha compartimentato in ambiti e sfere tra loro separate, no? Per cui noi abbiamo le piante studiate dal botanico, il suolo studiato dal chimico del suolo, il climatologo che studia il clima, un mondo separato che è alla base della mancanza anche di prevenzione e di controllo dell'uomo sulla natura, sulla stessa natura che esso manipola. E vedete, a questo proposito ho parlato troppo? No. A questo proposito io voglio fare lo devo chiedere a casa. voglio fare una riflessione che qui ritengo opportuna e utile. Vedete, anche il pensiero ambientalista ha contrastato, come dire, la cultura e anche la condotta, no, di sfruttamento dissennato della natura con una concezione della medesima di natura sostanzialmente deterministica o, se volete, quantitativa. Cioè, qual è l'opposizione che si fa, no? a quanti economisti, politici, eccetera, pensano che con la tecnica si risolverà ogni problema. Si dice, con una frase che è rimasta, che è ormai famosa, in un mondo finito pensare a una crescita infinita può solo farlo un pazzo oppure un economista, no? Questa è la battuta che circola. Battuta simpatica, è anche vera, ma questo non basta. Vedete, non è il mondo, non è solo il mondo finito. Cioè, quando diciamo mondo finito, noi cadiamo in una visione per cui, che è, come dire, il corrispettivo di quella dei nostri, chiamiamolo così, avversari, per cui la natura è una cava, no? Da cui si può trarre una determinata quantità di materiali oltre i quali non c'è più niente, c'è il vuoto. Quindi noi abbiamo un'immagine quantitativa, no? Della natura. La natura è finita se noi utilizziamo questa quantità finita e la sfruttiamo senza rinnovarlo, il mondo non va più avanti. Questa, non è questa l'immagine che la scienza ecologica ci dà. La natura è un complesso straordinario di equilibri, non è una quantità. Se noi distruggiamo questi equilibri, noi produciamo dei danni incommensurabili. Non è solo la quantità di materiali che noi sfruttiamo a determinare, ma la rottura di equilibri che spesso ignoriamo, che la scienza spesso ignora. E vi faccio un paio di esempi. Ecco, quando noi pensiamo al bosco o addirittura alla foresta, se noi ragioniamo come ragionano gli economisti, noi vediamo nel bosco una determinata quantità di legnami che possono entrare in un circuito produttivo, diventare materiale per l'industria del mobile e così via. Ma il bosco non è solo questo. Il bosco è intanto un ecosistema complesso al cui interno prospera un determinato grado di biodiversità, il bosco serve a difendere il suolo dai processi di erosione, il bosco fa immagazzinare l'acqua, come sapevano già i romani, i tecnici romani, è un serbatoio il bosco, soprattutto il bosco montano, conserva le acque, il bosco produce ossigeno, il bosco immagazzina carbonio, cioè il bosco non è riducibile alla quantità dei materiali mercificabili che esso contiene, è un mondo, è un insieme interrelato di cui bisogna tenere conto, di cui la scienza contemporanea, la scienza avanzata tiene conto e non tiene conto l'economia. L'esempio di Isola di Pasqua mi ricorda Ferraioli giustamente. Ma vedete, vi faccio un altro, altri due esempi che sono diciamo alla portata di tutti noi. Il buco dell'ozono. Il buco dell'ozono, voi sapete, è stato un fenomeno di straordinaria gravità. Io ho letto libri impressionanti sugli effetti possibili. Per fortuna, diciamo, la scienza, in questo caso i chimici, Paul Crutz e i suoi amici, sono venuti a capo di questo fenomeno. Come è noto, il buco dell'ozono è stato generato dai gas clorofluorocarburi che sono stati costruiti in laboratorio dai tecnici, dagli scienziati. Ma nessuno di questi scienziati aveva idea che questi gas addirittura andavano a interferire sugli equilibri degli strati alti dell'atmosfera. Cioè, questo è veramente straordinario, no? Cioè, si va a toccare, e questo significa che i raggi ultravioletti colpiscono direttamente gli organismi viventi e distruggono le cellule, producono tumori. In Australia è stato rilevato un legame diretto tra l'andamento del buco dell'ozono e il diffondersi del melanoma della pelle nella popolazione australiana. Voi vedete qui come, poi naturalmente la chimica è intervenuta, ma per fortuna scadevano anche i brevetti delle società per cui è stato possibile, facile, diciamo, smettere la produzione di gas clorofluorocarburi. Ma questo, diciamo, fa vedere come il bene comune, in questo caso, no, del cielo, è il caso di dire, viene violato da interessi privati privi di conoscenza della complessità che governa, in questo caso, l'atmosfera. E non posso qui non ricordare quello che tutti sappiamo, cioè il riscaldamento climatico. Ma 50 anni fa, tranne pochi solitari studiosi, io ho dato qualche tesi ai miei ragazzi sulla nascita del concetto di global warming, di riscaldamento globale. Ci sono stati singoli scienziati che hanno capito questa cosa, ma sino a 50 anni fa chi immaginava che i nostri fumi, i nostri scarichi, le nostre attività produttive, il nostro traffico urbano addirittura condizionasse quello che ci appariva più lontano e come dire, non toccabile dalla nostra vita terrestre, il clima. E invece è provato, scientificamente provato, che noi influiamo sul clima terrestre e che cioè il cielo non è così lontano, è il nostro comune tetto e noi possiamo renderlo rovente con la nostra condotta. E questo, vedete, porta a guardare alla terra ancora di più come a una casa comune, no? Che non può essere governata dagli appetiti singoli e disordinati dei privati. Per cui, diciamo, occorre rivedere molte cose, occorre ripensare il ruolo dei privati nell'economia del nostro tempo, occorre dare alla politica una consapevolezza scientifica che essa è ben lungi dal possedere e naturalmente occorre anche ripensare alla scienza che ha regolato la proprietà privata e le condotte economiche, cioè al diritto, no? E proprio per questo io chiuderei qui dando la parola a due esperti di questo aspetto, diciamo, dei nostri temi, in maniera tale che la nostra riflessione di oggi possa avere, non dico una completezza, ma abbracciare uno spettro piuttosto ampio di ambiti, fermo restando che poi a livello di discussione, che immagino no, seguirà, possiamo approfondire in maniera più precisa alcuni dei temi trattati forse con eccessiva celerità. Vi ringrazio. Grazie mille. Allora, grazie moltissimo al professor Bevilacqua. Rispetto al programma c'è un cambiamento, nel senso che passerei la parola al professor Ugo Mattei, perché purtroppo per problemi, insomma, di lavoro deve scappare a una certa ora e quindi ha bisogno di intervenire prima. Dico questo perché, appunto, come sapete, perché non è la prima volta, queste giornate hanno, diciamo, due relazioni iniziali e poi un focus su un problema specifico che tendenzialmente, appunto, come da programma seguiva le relazioni generali, e invece questa volta appunto ascoltiamo prima il focus, che è appunto sull'acqua e le privatizzazioni. Ugo Mattei è docente di diritto internazionale e comparato di diritto civile. Ha scritto numerosissimi saggi anche già citati. Segnalo, diciamo, perché mi sembra rilevante, che è uno dei promotori del referendum contro la privatizzazione dell'acqua. Bene, grazie mille, scusate il piccolo cambiamento programmatico che vi ho imposto, ma temevo di poi non fare in tempo a intervenire e poi passare tutto il tempo, invece di rilassarmi a sentire la relazione di Ferraioli, a stressarmi per il tempo che mancava alla mia, quindi ho chiesto a Katia che giustamente di fare questa piccola eccezione. Non voglio tradire naturalmente il mandato, che era quello di tenere il fuoco sull'acqua. Sebbene Bevilacqua ci abbia già fatto vedere benissimo fino adesso come nell'affrontare questa tematica dei beni comuni la grande sfida sia quella di prendere in considerazione davvero tutte le connessioni nascoste, per usare proprio il titolo di un libro di Capra che alludeva prima. Cioè, ci sono una quantità di connessioni nascoste nel mettere al centro i beni comuni e le nostre, come dire, categorie euristiche, anche quelle che sembrano più neutrali, in realtà finiscono per produrre delle strutturazioni ideologiche che alla fine non fanno vedere, non rendono evidenti i beni comuni. Uno dei grandi problemi dei beni comuni è che essi non si vedono normalmente e si percepiscono soltanto nel momento in cui sono effettivamente messi a rischio grave. Per molto tempo i beni comuni vengono utilizzati, offrono servizi gratuiti, è stato già detto, si dà per scontato la loro esistenza fino a che non ci si accorge che non ci sono più. Ed è un'esperienza molto, che sarà capitata a tutti, no? Un po' come quando si va a casa e per caso hanno tagliato l'acqua perché stanno facendo dei lavori. Ed è impressionante il numero di situazioni, di momenti nei quali uno si dimentica che non ha più l'acqua, no? Perché siamo abituati ad aprire il rubinetto e far uscire l'acqua. In quel momento ci accorgiamo di quante cose ruotano intorno all'acqua, che non è certamente soltanto bere, ma è organizzare l'intero nostro scambio con il mondo fuori di noi. Siamo in grande parte acqua e il nostro rapporto col mondo esterno è un grande scambio di acqua, in realtà. Lo stesso processo di invecchiamento, la nascita delle rughe, no? Il bambino è più idratato rispetto a quanto ci si disidrata diventando vecchi, per cui io dico sempre alle mie figlie che mi dicono che mangio troppo, che alla metà si può scegliere tra avere le rughe o essere grassi, no? Quindi io opto per la seconda e quindi mi metto tranquillo. No, questo perché? Perché anche l'invecchiamento è un processo di disidratazione, di scambio, è una connessione, se vogliamo, tra il soggetto e l'oggetto. Cosa che mette in discussione innanzitutto il primo grande assunto della modernità, il primo grande assunto del nostro arredo intellettuale di base, che è la distinzione fondamentale appunto tra la soggettività e l'oggettività. Il fatto che esista una res cogitans da un lato e che esista un mondo esterno rispetto a noi dall'altro. E che in qualche misura la razionalità umana sia capace di rapportarsi rispetto al mondo esterno come se non ne facesse parte. Ma questa è la prima grande ideologia all'interno della quale noi viviamo. Siamo in grado di astrarci, in quanto diventiamo in qualche misura soggetto pensante, siamo in grado di astrarci rispetto al mondo fuori da noi, ma facciamo un'operazione dei tratti nettamente ideologici, perché è un'operazione assolutamente controfattuale. Leggevo quel noto passaggio di Gramsci qualche giorno fa, molto divertente, diceva: se le ghiande avessero un'ideologia, no, direbbero tutte di essere delle querce in potenza, ma in realtà quasi tutte le ghiande finiscono in pasto ai porci, no? Questa è un po' la cosa. In sostanza si costruisce un'ideologia portante che ci fa vedere le cose in una dimensione che è sostanzialmente quella del wishful thinking, no? Vogliamo dominare la natura, vogliamo essere diversi dalla natura stessa perché così possiamo dominarla. E qui andiamo alle radici sostanzialmente della metodologia scientifica, da Bacone, la modernità, e sappiamo bene tutte queste cose. Tema dell'acqua, in qualche misura, secondo me, è molto importante, non soltanto perché l'acqua, per tutta una serie di circostanze, secondo me, non casuali, è comunque diventato in qualche modo il tema che ha rimesso al centro della questione i beni comuni. Questo ne parlavamo anche con Laura Pennacchi una volta, no? Tutto questo emergere di attenzione, di gruppi di studio, di parlare di beni comuni, è una cosa davvero recente. Ed è una cosa che però è avvenuta non soltanto da noi, non è la solita moda, come dire, culturale, intellettuale, per cui per un certo periodo di tempo in tanti si appassionano di un termine, di una problematica, ma c'è stata una vera immersione che si colloca in una determinata data storica, in un determinato momento storico, e che ha degli episodi che sono apparentemente molto lontani uno dall'altro, dalla battaglia per l'acqua a Cochabamba, e lì c'è l'acqua di mezzo, sicuramente quello è stato uno dei grandi momenti di immersione dell'idea dell'acqua come bene comune, perché ha reso reale il potenziale politico di questa battaglia, cioè quanto sostanzialmente prendere in considerazione e mettere al centro la vicenda dell'acqua abbia una componente politica enorme, politica nel senso fisico del termine. Essendo noi in gran parte acqua ed essendo noi quindi dipendenti dall'acqua, nel senso si muore in 3 giorni, 4 giorni se non si beve, questo controllo dell'acqua consegna una strutturazione politica della società che è assolutamente fondamentale. Il libro sulle civiltà idrauliche, da questo punto di vista, spesso citato anche da Stefano Rodotà, è un libro importante perché ci fa vedere come la concentrazione del potere passi attraverso le tecnologie di controllo dell'acqua, fin da tempi molto antichi. Così come oggi la concentrazione del potere passa attraverso tecnologie di controllo dell'energia nucleare. Cioè, sono i grandi momenti che consentono politicamente la concentrazione del potere facendo leva su concentrazione di investimenti e capacità tecnologiche che ci sono in certi ambiti e non ci sono in certi altri. Quindi nasce in qualche misura con Cochabamba, ma poi questa immersione dei beni comuni passa attraverso altre esperienze, passa l'esperienza dell'Ecuador, per esempio la lotta contro le multinazionali del petrolio, che avvelenavano la foresta e che ha portato a casi importantissimi. C'è un documentario molto bello che vi consiglio di scaricarvi da internet ed andarvi a vedere, che si chiama Crude, per l'appunto, C-R-U-D-E, che vuol dire crudo, sarebbe il petrolio greggio, che è un bellissimo documentario proprio che segue la vicenda giuridica di questa battaglia delle popolazioni locali ecuadoregne contro questa multinazionale, una battaglia giuridica davvero del mondo attuale, no? Giocata in tante giurisdizioni, un po' locali, un po' negli Stati Uniti, a livello internazionale, un film molto bello, io lo faccio sempre vedere ai miei studenti ai miei studenti. Crude, negli, crude, sì, crude. Questo, e poi vengono fuori altri episodi, no? Per esempio, che cosa succede? Succede che a un certo punto danno il premio Nobel alla Ostrom. Anche questa è una cosa, se tu sei sorpreso dell'articolo di Gareth Harding, io sono sorpreso del premio Nobel alla Ostrom, sinceramente, perché mentre in qualche misura l'articolo di Harding, secondo me, aveva tutta una serie di problemi che tu hai messo bene in evidenza, ma costituiva un vero, come dire, interpretava un certo momento in una maniera interessante e conteneva comunque una cosa che è raro trovare nella letteratura degli Stati Uniti, di che dire che la tecnologia non è onnipotente, cosa che comunque non... I lavori della Ostrom, che io conoscevo bene perché la conosco da tanti anni, in realtà rompono molto poco rispetto al paradigma dominante, si muovono comunque all'interno di una certa metodologia di lavoro, di una certa analisi degli assetti motivazionali, e vanno nella direzione in cui tutta l'economia è andata, in qualche modo per salvarsi la coscienza, che è quella di dire: ma in fondo l'homo economicus non è proprio homo economicus davvero, no? Ma in fondo noi pensiamo anche sulla base di paradigmi di decisione più sofisticati e più complessi rispetto alla massimizzazione di breve periodo. Cosa che secondo me è vera, ma non è molto interessante. La cosa davvero interessante è che la tragedia dei comuni in realtà esiste e funziona proprio perché l'homo economicus funziona. Semplicemente l'homo economicus esiste sotto forma di istituzione. Cioè l'homo economicus è il consiglio d'amministrazione della corporation. Non è l'uomo in quanto persona fisica in carne ed ossa, ma è la strutturazione dei rapporti, degli incentivi delle istituzioni che abbiamo creato, delle istituzioni economiche, che assolutamente funzionano davvero come massimizzatori di breve periodo. Quindi la cosa davvero interessante non è perché non funziona il meccanismo dell'homo economicus, certo che non funziona, perché se io sono motivato da altre cose, dall'amore, dall'affetto, da tutte le altre motivazioni che ci sono, deciderò in determinati casi in modo diverso. Ma se io sono l'amministratore delegato di una grande corporation e sono innamorato e credo di decidere sulla base di quella motivazione lì, mi cacciano via. Cioè la strutturazione istituzionale della scelta nel momento in cui io sono in un certo ruolo, che è il ruolo istituzionale di amministratore delegato di una certa corporation, mi costringe alla scelta che massimizza l'utilità di breve periodo e il valore delle azioni. Quindi l'home economics è stato strutturato sulla base di una specie di istituzione mostro, no? Che sono queste corporation che effettivamente si comportano in quel modo. Allora, Ostrom riceve il premio Nobel, scusate la parentesi, ma l'home economicus è stato quello che ha fatto scattare la lotta per i beni comuni. Perché in Bolivia la battaglia per l'acqua è stata una battaglia contro una certa corporation, che era la Bechtel. Perché in Ecuador la battaglia per la liberazione, in qualche modo, di quel grande bene comune che è la foresta tropicale, è stata contro una specifica compagnia, che era la Chevron. E così via. E non è che questi signori che guidano e che siedono nei consigli di amministrazione della Chevron o della Bechtel fossero particolarmente consapevoli o comunque felici di assetare dei poveri boliviani. Io non credo che ci fosse un consapevole, come dire, accanimento da parte del board della Bechtel di dire: ecco, guarda, adesso i boliviani hanno costruito le loro cisterne per raccogliere l'acqua piovana, e noi gli facciamo causa in modo che non possano raccogliere acqua piovana perché guadagniamo di meno. È ovvio che non funzionava così. Funziona sulla base di strutturazioni istituzionali per cui ciascun pezzettino della corporation porta avanti soltanto la sua funzione, e l'esito è questa roba qui, no? Premio Nobel viene assegnato alla Ostrom, e io credo che quando una teoria prende il premio Nobel, questo significa che la teoria è diventata mainstream ed è il momento nella quale va presa con le maggiori molle possibili. Cioè è il momento nel quale una teoria rischia di diventare ideologia, nel momento in cui riceve il Nobel, soprattutto il Nobel per l'economia, ha funzionato quasi sempre così, per cui chiaramente che cosa succede? Che questa nozione di beni comuni, di commons, adesso è una nozione da prendere, da utilizzare sicuramente, ma da prendere con grande cautela, perché è una di quelle potenziali categorie che sono a rischio di diventare ideologiche, un po' come la sostenibilità, no? La nozione di sostenibilità è sicuramente una nozione estremamente importante perché fa riferimento all'idea del lungo periodo, ma è anche una nozione che è stata in qualche modo hijacked, no? È stata in qualche modo dirottata da tutta una serie di filoni letterari che ne fanno un utilizzo invece di tipo non progressivo. In Italia la battaglia per la questione dei beni comuni era emersa in varie circostanze, in vari luoghi. Sicuramente c'era stata un'importante riflessione che avevamo fatto ai tempi della Commissione Rodotà sul tema, cercando in qualche modo di caratterizzarlo giuridicamente, ma poi ha preso piede in realtà moltissimo intorno alla battaglia per l'acqua, cioè quando si è visto che aveva delle gambe politiche, cioè non era più soltanto una categoria teorica, ma era una categoria dotata di una sua portata nella prassi. Ecco un'altra barriera, come dire, un'altra connessione nascosta, no? Un'altra barriera che viene stritolata dall'analisi sui beni comuni, quella fra teoria e prassi. I beni comuni sono difficili, non si possono teorizzare in astratto. Sono una categoria talmente pervasiva, secondo me, della realtà dei rapporti politici che vanno in qualche modo visti e considerati e capiti nella loro prassi, nella loro vita quotidiana. Io credo che siamo ancora un po' in quella fase lì. Io diffido in questa fase qui di elaborazioni sui beni comuni che cerchino già nuove tassonomie, che cerchino già, come dire, elaborazioni concettuali avanzate. Io credo che siamo ancora in una fase nella quale è necessario fare un lavoro quasi etnografico, no? Vedere come emergono, come riescono a farsi notare, come rivendicano una loro presenza, attraverso quali forme politiche e quali forme sociali. Quindi ci sia questo, come dire, questo, la necessità di umilmente guardare le prassi e cercare di capire le prassi prima di sovrapporre delle teorizzazioni alte. Ed è per questo che secondo me è una buona idea tenere il fuoco sull'acqua in una riflessione come questa, perché l'acqua effettivamente ha in Italia rappresentato un punto di svolta. Un punto di svolta che io credo ci fa vedere un po' anche quello che come si è andati elaborando, in contrapposizione a cosa la nozione di bene comune è nata. Perché ricordate all'inizio della questione sull'acqua, i nostri legislatori, soprattutto il ministro Tremonti e l'allora ministro Ronchi, dicevano: ma in realtà qui si sta facendo una gigantesca battaglia ideologica, perché qui non si tratta di privatizzare l'acqua, quello che si privatizza sono semplicemente le strutture della distribuzione, della gestione dell'acqua, è un altro modello. Allora, la contrapposizione, io credo, intorno alla quale si è sviluppata l'idea di acqua come bene comune, è stata esattamente un'elaborazione contro un certo modello di gestione che coinvolge la società di capitali. Cioè, l'oggetto, come dire, il target critico di chi difende l'acqua come bene comune è l'organizzazione societaria for profit. Cioè l'idea che sostanzialmente ci sia una certa forma, e indipendentemente da chi poi abbia la sostanza del controllo delle azioni, cioè indipendentemente dal fatto se poi il pacchetto di controllo sia pubblico o privato a chi appartenga, lasciamo perdere, c'è una certa forma che è la forma societaria, che è l'homo economicus, come dicevo prima, cioè la strutturazione della forma homo economicus lo rende incompatibile rispetto alla gestione di una risorsa delicata come l'acqua. E lo rende incompatibile rispetto a una gestione di una risorsa delicata come l'acqua, proprio perché questa risorsa si colloca in qualche misura in un ambito che è troppo importante per essere consegnato alle motivazioni semplici del mercato. D'altra parte, non bisogna andare soltanto a vedere le esperienze lontane di tanti secoli fa in cui si viveva benissimo in rapporto di equilibrio con i comuni, poi che si vivesse bene, si vivesse male, questo apre tante parentesi, tanti punti interrogativi, no? Ma in realtà la gestione di beni comuni come l'acqua attraverso delle strutture pubbliche, quindi superando l'idea che la motivazione di profitto e quindi che il modello di Harding potesse funzionare nella gestione dell'acqua, l'abbiamo vista all'opera anche da noi in tempi abbastanza recenti, perché tutto sommato l'acqua privata era la realtà in Inghilterra, in Germania, in Italia fino per tutta l'ultima parte dell'Ottocento, e questo comportava il fatto che in realtà accesso all'acqua pulita fosse, quindi stiamo parlando della gestione, quindi non stiamo parlando della risorsa, del bene, stiamo parlando della gestione, quindi accesso all'acqua pulita fosse riguardasse soltanto un numero molto limitato di persone e questo comportasse tutta una serie di problemi, fra cui gravi epidemie che comportavano quindi degli effetti esterni, direbbero gli economisti, degli effetti esterni molto gravi, tali da richiedere, da mostrare, come dire, un fallimento del mercato, tale da richiedere un intervento diretto dello Stato. E siamo andati nella direzione di una sorta di statualizzazione, che poi sono state le municipalizzate, che erano, in realtà non era una gestione statale, era una gestione pubblica attraverso delle istituzioni pubbliche che erano state pensate in modo non statale. Una delle cose che spesso si ripetono in questa fase della battaglia per il referendum dell'acqua è questa sorta di identificazione tra Stato e pubblico. È un'operazione a sua volta ideologica, serve al puro scopo di delegittimare la nostra azione. Siete degli statalisti, volete tornare allo Stato, ma guardate che disastro, basta che andiate una volta a vedere come funzionano le strutture statali e si vede che siete dei forsennati ideologici, no? Ti tentano di... In realtà la convergenza tra far pubblico e Stato non è affatto necessaria e addirittura il periodo delle municipalizzate teneva conto di un aspetto importante, che l'acqua e la gestione del servizio idrico è nettamente locale come necessità. Noi abbiamo il codice civile italiano, per esempio, che tiene il diritto sostanziale dell'acqua codificato nel codice del 42, e questo molto prima della battaglia per l'acqua tantissimi giuristi civilisti dicevano che era una fesseria, cioè che avere le regole sostanziali dell'acqua, quelle contenute negli articoli 820 eccetera del codice civile, come norme generali valide da Capopassero al Brennero, è una cosa che non ha senso. Perché i regimi delle acque, per essere dei buoni regimi sostanziali, devono riflettere le condizioni al contorno. Se di acqua ce n'è tanta, se di acqua ce n'è poca, il tipo di scarsità, queste cose qui. Per cui l'idea stessa di mettere il diritto delle acque nel codice civile è un'operazione sbagliata. Questo era già contestato prima proprio sul piano tecnico dai giuristi, no? Le municipalizzate erano una gestione in realtà fortemente locale ed era una gestione che aveva dato dei risultati molto importanti in termini di superamento delle, appunto, delle epidemie, di tutti questi problemi che c'erano, in termini di rendere accessibile l'acqua a larghissime componenti della popolazione, acqua di buona qualità, come è tuttora in grande parte del nostro territorio. Dopodiché, quindi, lo scenario era un po' questo. Nel 94 sicuramente c'è stata un'operazione fortemente ideologica, che è stata la legge Galli, che era una buona legge dal punto di vista sostanziale. Io ricordo che all'epoca avevo pubblicato una seconda edizione di un libro sulla proprietà che avevo fatto, e quindi proprio ci lavoravo, come dire, da giurista, e tutta la prima parte della legge Galli, quella relativa ai principi, era un'ottima legge. Introduceva l'idea dell'uso solidaristico, introduceva alcuni aspetti delle priorità d'uso che sostanzialmente cercavano di modulare il modello della gestione idrica ad effettive necessità, quindi era una buona legge. Peccato che poi avesse questa parte dopo che apriva alla privatizzazione, che era entrata sulla base però di un momento, che era quel momento lì dei primi anni 90, nei quali tutti pensavano davvero che il privato fosse una buona cosa, anche nella gestione dei monopoli naturali. Non è che c'era un'opposizione o che ci fosse una grande contrapposizione rispetto a quest'idea. Tutti quanti ritenevano che, proprio perché il pubblico aveva dato pessima prova di sé, dove? Nella sua grande epifania, che era l'Unione Sovietica. Alla fine il pubblico, la caduta, il crollo dell'ideologia del pubblico è stata legata in modo abbastanza netto e visibile anche da noi rispetto a cosa è successo dopo la caduta del muro di Berlino, no? C'è il grande collasso del modello statalizzato, burocratico, centralizzato, chiamatelo come volete, ha contagiato tutte quelle teorie che ritenevano il pubblico essere importante, tant'è che da noi sono stati proprio i partiti della sinistra, quelli più vicini al Partito Comunista in particolare, i suoi eredi, ad essere i primi che si sono distanziati rispetto al modello del pubblico, proprio perché il modello del pubblico era condannato come modello statalista, no? di quel tipo lì. Quindi nel 94 quella legge era una legge che rifletteva esattamente le condizioni di quello che tutti pensavano in quel particolare momento. L'abbiamo sperimentata per 14 anni, 94-2000, sì, per 14 anni, e a seguito di questa legge del 94 circa il 20% del servizio idrico nazionale italiano, del servizio idrico integrato, era stato gestito in mani private, circa il 20%, l'80% era ancora saldamente in mano pubblica. Quindi noi abbiamo fatto una sperimentazione virtuosa, secondo me, che è quella di dire, beh, abbiamo provato, c'è la possibilità di farlo, proviamo. Abbiamo provato per 14 anni, andiamo a vedere che cosa succede. Valutiamo in modo pragmatico quello che è capitato, che poi dopo è quello che ci dicono tutti i momenti, quelli che studiano il federalismo, per esempio, no? Facciamo delle prove e per un po' di tempo, dopodiché sappiamo come vanno queste cose e decidiamo di conseguenza. Allora, proprio nel momento in cui si stavano accumulando i primi dati importanti sui fallimenti delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni, perché lì stavano arrivando i dati uno sull'altro, io mi ricordo in quel periodo lì avevo portato avanti una ricerca di 3 anni all'Accademia dei Lincei proprio lavorando su queste cose, accumulando dati su come erano andate le privatizzazioni. C'erano lavori da tutte le parti, da quelle di Fiori ad altri, che dicevano: ma attenzione, perché in realtà le privatizzazioni hanno portato due effetti ovunque, quasi una legge generale delle privatizzazioni: declino degli investimenti, aumento dei prezzi, e a questo si può aggiungere anche aumento del budget per la pubblicità, oltre ad aumento, io direi, anche del compenso del management, perché poi queste sono le quattro cose che succedono nel momento in cui tu privatizzi un settore. Aumentano i prezzi del servizio, diminuiscono gli investimenti, aumentano le paghe del management e aumenta il budget della pubblicità. Fateci caso, guardatevi intorno, dall'Agip all'IRI, eccetera, così è andata. I dati c'erano accumulati non soltanto in Italia, ma abbastanza dappertutto, per cui era un momento nel quale si sarebbe dovuto fare una pausa di riflessione. E invece, un anno e mezzo fa, che cosa fanno? Tac, il tentativo, no? Il grande saccheggio. No, io ho scritto un libro che si chiama Il Saccheggio, lui l'ha scritto Il Grande Saccheggio, usiamolo grande, no? Cioè, il grande saccheggio, cioè, alla fine di novembre 2010 si dice, bene, è andata malissimo per quel 20%, la sapete la novità, che il restante 80% andiamo in quella direzione lo stesso, perché così è andata, cioè la legge Ronchi in realtà ha fatto questo, ha detto quel restante 80% che ancora non era stato privatizzato, adesso va messo a gara. Quindi non guardiamo che cosa è successo prima, facciamo in fretta beccare il restante pezzo della torta. E questo, secondo me, è ciò che ha scatenato il movimento referendario. Ed è anche quello che l'ha reso estremamente potente, secondo me, perché l'hanno capito tutti che si trattava di un'operazione fortemente piratesca. Predatoria. L'hanno capito tutti, tant'è, e la prova che l'abbiano capito tutti è che gli stessi signori che stavano perpetrando la cosa negavano di volerlo fare. Cioè, mentre nel 94 l'ottimo Galli, che era un politico del Partito Popolare di Brescia, era un popolare di Brescia, una persona di centrosinistra per bene, insomma, eccetera, aveva in qualche modo portato quello della privatizzazione come un vanto, no? Come il fatto che la sua legge fosse moderna, e tutti gli andavano dietro perché quello era in quel momento l'ideologia dominante. Oggi si cerca di fare la stessa cosa, ma lo si nega. Tant'è che, quindi, sul piano culturale l'inversione di rotta è evidentissima, perché si fa un'operazione di privatizzazione ma si dice no, non stiamo privatizzando, attenzione, stiamo facendo un'altra cosa, no? Quindi si vede come sia cambiato il vento in questi anni. Allora, questo cambiamento del vento non ha comportato l'inversione di rotta relativamente poi effettivamente alla gestione di queste cose. E qui è partito il referendum che è stato molto, molto interessante come esperienza, primo perché ha portato davvero a un successo di raccolta di firme unico nella storia di questo istituto. Seconda questione è che è stato un referendum portato avanti nel silenzio quasi totale dell'informazione pubblica e privata, quasi totale, cioè, ancora poco tempo fa lo sapevano pochissimi. Terza cosa molto interessante, secondo me, che spiega l'eterogenesi dei fini della politica è come il movimento referendario per l'acqua cercasse in tutti i modi di scongiurare il referendum sul nucleare. Cioè, quando è partito il referendum sull'acqua, ci sono state delegazioni su delegazioni dei referendari del forum dell'acqua che andavano a trovare Di Pietro dicendogli: per carità, non facciamo un referendum sul nucleare, perché sembrava che il referendum sul nucleare avrebbe fatto perdere. E lì davvero si è visto come intanto la tattica prevalesse sulla strategia. Nel senso che la parentela netta fra nucleare e acqua si vede di fronte a tutti, ci arrivo fra un attimo, qual è il legame proprio in chiave di bene comuni. Perché sono i due aspetti della grande tenaglia, no? C'è una grande tenaglia che stritola i beni comuni. Uno è lo Stato sovrano, centralizzatore del potere, e l'altro è la proprietà privata. No? Proprietà privata e Stato che si presentano come antipodi sono in realtà la stessa cosa, sono i bracci di una tenaglia, come dire, della tenaglia della modernità che stritola i beni comuni e lavorano e funzionano esattamente nello stesso modo, come dal punto di vista della concentrazione del potere. No? È una concentrazione del potere e una forma di esclusione, no? questi due aspetti strutturali, giuridici, dell'istituzione Stato e dell'istituzione proprietà privata, che sono gli stessi, che sono esattamente gli opposti rispetto al comune. Il comune è un'istituzione che diffonde il potere, che deve diffondere il potere, ed è un'istituzione basata sull'accesso. C'è questo saggio molto bello di Boyle che ha pubblicato tra il 2004-2005 che proprio parla dell'era dell'accesso, come sia in questo momento la struttura fondativa della, come dire, dell'utilizzo delle risorse sia, non sia più l'esclusione, ma debba diventare necessariamente l'accesso, con tutto quello che ciò comporta di nuovo in termini di rigirare il guanto. Allora, questa vicenda conduce a portare avanti questa battaglia in un clima molto difficile, con un pezzo non indifferente del governo, sostanzialmente diceva che noi non avevamo capito niente di diritto europeo, che in realtà il decreto Ronchi era un obbligo di legge, che non si poteva far diverso, che l'Europa lo imponeva, che noi stavamo presentando un referendum che non poteva essere mai ammesso perché è contrario al 75 della Costituzione. Adesso mi dispiace parlarne qui perché, esatto, ci sono fior di giudici estensori della cosa. La Corte Costituzionale ha detto a questi signori: andate voi a lezioni di diritto europeo. Di fatto così è andata. E quindi ha sostanzialmente fatto partire finalmente un'autentica riflessione su quello che l'Europa impone o non impone, cioè su quali sono le possibilità che sono effettivamente aperte. Il governo perde la battaglia alla Corte Costituzionale, dove si costituisce con l'Avvocatura dello Stato, dicendo il referendum è inammissibile per quelle ragioni lì, perde la battaglia alla Corte Costituzionale. Un minuto dopo che i referendum sono stati ammessi, se fossimo in un paese normale, il governo a questo punto sarebbe vincolato da un obbligo di leale cooperazione con le altre istituzioni dello Stato, cioè cercherebbe di far sì che questo referendum si faccia nel modo più, come dire, coerente possibile con la funzione del 75 della Costituzione, che dà degli spazi di democrazia diretta, che questa democrazia diretta venga effettivamente gestita. Invece cosa fa il governo? Immediatamente fa due operazioni. Uno, nega l'election day, cioè prende 300 milioni di euro e li butta via dalla finestra, dicendo noi non accorpiamo perché l'accorpamento sostanzialmente farebbe rischiare che il referendum vada a buon fine. Allora, chiaramente lì è di parte, perché come parte aveva un suo momento istituzionale in cui era di parte, e il momento istituzionale era di fronte alla Corte. La Corte gli ha detto no, non hai ragione in questo, gli ha dato ragione su uno dei tre referendum, non su quello lì. No? Su quei due lì, a quel punto adesso il governo non dovrebbe essere parte, dovrebbe essere buona amministrazione, e dovrebbe essere buona amministrazione farsi guidare da due articoli, il 75 della Costituzione, che comunque prevede degli spazi di democrazia diretta da un lato, e dall'altro dovrebbe farsi guidare dal 97 della Costituzione, che prevede la buona e imparziale amministrazione pubblica, cioè il fatto che sostanzialmente queste cose devono essere adesso portate avanti non nell'interesse della parte che non vuole il referendum, ma nell'interesse di tutti quanti. Questo dovrebbe succedere, non succede naturalmente. Allora, è chiaro che la battaglia per l'acqua presenta dei côté giuridici e dei côté politici che sono molto molto legati fra loro, ed è altrettanto chiaro che ci sono stati, secondo me, una serie di, come dire, by-products giuridici di questa battaglia per l'acqua che sono interessanti. Perché non solo la Corte Costituzionale si è trovata a doversi misurare con la categoria dei beni comuni e quindi incominciare a familiarizzarsi con questa nozione, le sezioni unite della Cassazione successivamente in una sentenza molto recente hanno utilizzato la nozione di beni comuni proprio per parlare delle lagune, no? Delle zone di cui parlavamo prima, no? Delle lagune per la pesca delle anguille, viste come beni comuni che andavano gestiti con una certa logica altra rispetto alla logica del profitto, che noi chiamiamo logica del saccheggio, ma insomma praticamente quindi sul piano giuridico nasce nascono, come dire, delle prime embrioni di, dei primi embrioni di elaborazione di nuove categorie. Nuove categorie che intanto riusciranno ad essere delle categorie vive e capaci ad incidere su quello che è l'assetto normativo del nostro diritto, in quanto siano effettivamente portatrici di una certa, come dire, di una certa visione delle cose, alternativa rispetto alla visione estremamente restrittiva che ha guidato fin qui la tassonomia dei beni. Cioè, l'evoluzione culturale di cui parlava Bevilacqua, cominciamo a pensare in modo ecologico, comporta un enorme sforzo per il giurista di ripensare le categorie del diritto dei beni. Perché le categorie del diritto dei beni sono, come dire, l'arredo che ci ha lasciato Napoleone in un momento storico molto particolare, in collegamento culturale con certi ambiti, che era ovviamente cartesio, che era, i legami con Domani erano chiari, cioè c'era tutto un legame, tutta una visione del mondo in cui la soggettività dell'individuo astratto lo collocava in posizione di dominio rispetto alla natura e ai beni. La natura e i beni sono i grandi esclusi, sono i grandi esclusi, sono effettivamente costruiti come un deposito di risorse. E questo è vero per tutte, sia per l'istituzione della proprietà privata, che noi nella battaglia contro la privatizzazione dell'acqua combattiamo. Noi sostanzialmente diciamo le strutture della proprietà privata, e la società per azioni è una struttura della proprietà privata, no? È il modo in cui la proprietà privata si struttura. È ovvio che quando uno parla, fa una critica alla proprietà privata oggi, non è che critica la proprietà dell'alloggio in cui abiti, sebbene poi l'ideologia borghese utilizza enormemente, no, questa idea, oddio, mi mettono in casa uno con cui devo condividere la camera da letto, se quello è critico alla proprietà privata. Quando si critica la proprietà privata, si criticano i grandi accumuli di potere societario capitalistico nella proprietà delle società per azioni che si mette in discussione, ovviamente, la grande concentrazione di capitale privato, no? E questa è quella che non può governare l'acqua. Perché consegnare un monopolio naturale come l'acqua a quel tipo di strutturazione significa davvero andare alla tragedia dei comuni. Beh, significa andarci letteralmente, perché quelle sono le motivazioni. E dall'altra, voglio dire, qui siamo legati evidentemente, c'è l'altro lato della medaglia, che è l'enorme concentrazione di potere pubblico nelle mani dello Stato, che governa la logica del nucleare. Perché quando... cosa è successo sostanzialmente? Questa battaglia dell'acqua probabilmente, se fa il quorum, lo fa soltanto, purtroppo, grazie, è brutto dirlo, ma lo fa probabilmente, purtroppo, soltanto grazie al disastro che è successo in Giappone, perché c'eravamo tutti talmente abituati. Quindi è successo il contrario? Il contrario, l'eterogenesi ai fini assoluta. Cioè, se si riesce questa volta è grazie a quello. Ma perché questo? Perché l'opinione pubblica è talmente, come dire, i beni comuni non emergono nella consapevolezza collettiva se non in situazioni in cui sono veramente in situazioni drammatiche come queste, non emergono. Per cui ci si era tutti in qualche modo abituati all'idea che, vabbè, insomma, il nucleare sa da fare. In questa logica di vera tragedia dei comuni, che è quella di dire, ma tanto ce l'hanno i francesi, ce l'hanno gli svizzeri, e quindi tanto vale che ce l'abbiamo anche noi, no? Perché questa è la logica, ma questa è esattamente la logica di Gareth Hardin, no? I francesi e gli svizzeri producono e mettono a rischio, a repentaglio, il comune pianeta, e quindi noi, anche noi dobbiamo farlo, perché sennò siamo mica fessi, che siamo a rischio e in più non abbiamo l'energia, no? Un po' come quello che va a mangiare la pizza con un gruppo di amici, il primo ordina la pizza, il secondo ordina la pizza, il terzo ordina il filetto, il quarto ordina il pesce, se non è cretino, no? Perché se si divide alla romana, evidentemente, i primi due che hanno pagato la pizza, che hanno ordinato la pizza, sovvenzionano quello che ha ordinato il filetto, il quale sovvenziona quello che ha ordinato l'aragosta. Quindi se si mangiare alla romana una volta, succederà invariabilmente una dinamica di questo tipo, no? Chiaro che se però ci vai due volte non succede più, no? Perché il gioco ripetuto evidentemente si comporta in modo differenziato. E allora chiudiamo qui per dire che la grande tenaglia proprietà privata-Stato, che è la grande nemica del bene comune, è sotto attacco in Italia politicamente in modo serio in questo momento, che intorno a ciò nascono nuove categorie giuridiche, ma forse anche nuove soggettività politiche, di cui c'è enorme necessità, e lo vediamo tutti. Queste sono due battaglie che sono andate, è stata la forza dei fatti a portarle insieme, perché erano battaglie figlie della stessa logica, e la logica era quella di un modello di sviluppo scellerato, che era il modello di sviluppo della Tragedy of the Commons, no? Cioè la corsa verso la tragedia scellerato che va fermata, no? Quindi c'è questa idea che occorre in qualche misura invertire la rotta rispetto a questi processi. Privatizzazione dell'acqua e nucleare, in questo senso, come dire, sono sul piano della prassi quella che l'alternativa proprietà privato-Stato è sul piano della teoria nell'analizzare le nuove istituzioni che stanno nascendo. E mi fermo qua. Allora, grazie davvero anche a Ugo Mattei e adesso la parola al professor Ferraioli, che appunto senz'altro sarà stato molto stimolato da tutte le volte in cui è stato chiamato in causa le categorie del diritto e il diritto. Io rispetto il professor Ferraioli, è docente di filosofia del diritto all'Università di Roma 3 rispetto anche qui, non so, insomma, vi segnalo questo articolo che ha scritto su una carta dei diritti, dei beni fondamentali, che insomma non credo ci sia nella bibliografia che avete allegato e che invece io ho letto con, insomma, è stato molto utile, quindi ve lo segnalo anche qui alla lettura. E niente, quindi do la parola. Grazie. Ma mi pare che le relazioni di Bevilacqua e di Mattei, ma più in generale l'intera l'intero itinerario di riflessione del 2011 sui beni comuni ci abbia mostrato come questo tema dei beni comuni sta diventando, è destinato a diventare un tema centrale della riflessione politica e anche della lotta politica, evidentemente, costringendoci a ripensare radicalmente nozioni di fondo come sfera pubblica, spazio pubblico e la stessa democrazia. Non solo si tratta di un tema non soltanto, diciamo, nazionale, ma un tema globale, evidentemente, in quanto molti beni comuni sono comuni per l'appunto all'intera umanità, a cominciare dal pianeta Terra, appunto, che è il bene comune sul quale tutti viviamo. E sotto questo aspetto mi pare molto importante il fatto che questa tematica sia stata, diciamo così, rilanciata a livello politico proprio dai referendum di cui ci parlava Mattei. Referendum che hanno svelato il carattere vitale di questi beni nel momento in cui questi beni sono aggrediti. Due referendum fortemente connessi, non ho mai capito come potessero essere contrapposti, in quanto sono entrambi a tutela di beni comuni tutelati dall'appropriazione privata, beni comuni come l'ambiente tutelati dalla distruzione, dai pericoli e dalle minacce che, come abbiamo visto, possono provenire dal nucleare. E qui per l'ennesima volta abbiamo avuto, appunto, lo ricordava Mattei, una prova di, diciamo, di dissennatezza, ma anche di, si parla sempre ormai talmente scontato quando si parla di conflitto di interessi che neanche più li vediamo, di prevalenza dell'interesse di parte sull'interesse pubblico. Perché è chiaro che separare i due referendum significa sabotare o tentare di sabotare l'esito dei referendum sulla base dell'idea che ai referendum non si va a votare, e significa anche favorire i partiti di governo, perché naturalmente il voto a favore del sì, dell'abrogazione, può trascinare, comunque innesta nella campagna elettorale, anche il tema dei beni comuni. Io vorrei, prima di chiedermi, di porre la questione perché, qual è la rilevanza appunto teorica, politica, dei beni comuni nella teoria della democrazia, però soffermarmi un momento, forse questo non piacerà a Ugo Mattei, su questioni concettuali e terminologiche, perché ho l'impressione che questa nozione di beni comuni, che pure viene utilizzata in maniera molto, molto indefinita, no? Qui anche nel nostro itinerario si parla di beni comuni a proposito della conoscenza, delle comunità, delle cooperative di comunità. No, io ho l'impressione che le categorie concettuali vanno definite sulla base di nozioni quanto più possibile, di termini quanto più possibile precisi, ma soprattutto in funzione delle loro applicazioni pratiche, delle tecniche di garanzia che il tipo di categoria appunto elaborata suppone e richiede. E mi pare che beni comuni sia sotto un certo aspetto troppo estesa, perché include troppe cose, no? Non soltanto i beni naturali, ma anche appunto la conoscenza, si parla perfino del lavoro, che sono cose forse più importanti o comunque non meno importanti, e tuttavia rispetto a cui la nozione di bene comune mi sembra assolutamente impropria, però attraverso troppo ristretta, perché ci sono beni vitali che non sono comuni e che richiedono di essere tutelati dalla sfera pubblica. Pensiamo per l'appunto ai farmaci salvavita, la cui mancata distribuzione, tutti i beni artificiali, la cui mancata distribuzione provoca, sta provocando milioni di morti ogni anno. L'alimentazione di base, l'acqua, viceversa, è un bene comune, anche se condivide alcuni aspetti di artificialità nella distribuzione e via dicendo. A me pare quindi che forse può essere più utile, per questo ricordava, scritto un saggio per una carta dei beni fondamentali, che sia più, diciamo, utile la categoria dei beni fondamentali, idonea a includere tutti i beni vitali, che devono essere sottratti al mercato e per altro verso alla disponibilità politica. I beni comuni fondamentalmente, i beni che sono di solito naturali, come l'aria appunto, sono i beni di Gaio, no? Le res communes omnium, definiti dal Digesto, quindi che hanno questa tradizione antichissima, poi ce ne ha parlato ancora Bevilacqua. Poi beni viceversa oggetto di diritti fondamentali, non diversamente dai primi, che potremmo chiamare sociali, come i farmaci salvavita, la cui distribuzione oggi è lasciata, salvo appunto le garanzie proprio dello Stato sociale nei paesi avanzati, alla dinamica del mercato, e lo stesso per l'alimentazione di base, che pure richiedono viceversa una produzione e distribuzione pubblica. E per altro verso altri beni, come i beni personalissimi, appunto quel vecchio principio dell'articolo 5, sottratti al mercato, sono per l'appunto i beni del corpo, rispetto a cui c'è un divieto di disposizione. Faccio questa precisazione perché userò molto le due categorie di beni comuni e beni sociali, che sono per molti aspetti connesse da alcuni tratti che richiedono garanzie simili. Ma torniamo alla questione. La questione in che senso la nozione di beni comuni, la nozione di beni fondamentali sta diventando centrale ed è destinata a diventare centrale nella teoria della democrazia. Su questo ne parlava ieri in un articolo sul Manifesto proprio Piero Bevilacqua, ricordando questo bel passo di Adam Smith, a proposito dei beni comuni. A proposito dei beni comuni, diceva Smith, ci sono alcuni beni che hanno un enorme valore d'uso e che tuttavia non hanno nessun valore di scambio, perché con essi non si può acquistare nulla, come per esempio l'acqua, faceva proprio l'esempio dell'acqua, e ci sono alcuni beni che hanno un grande valore di scambio, come per esempio i diamanti, ma praticamente nessun valore d'uso, comunque un valore d'uso molto ridotto. E Bevilacqua mostrava come appunto questo schema entra in crisi radicalmente con l'appropriazione, la distruzione, la messa in questione dei beni comuni, che nel momento stesso in cui non sono più accessibili a tutti, acquistano un valore d'uso che non essendo più accessibile a tutti, produce in mancanza del diritto la trasformazione in merci, in beni patrimoniali. Produce la trasformazione in beni patrimoniali che peraltro produce anche un paradosso rispetto alla stessa logica del mercato, perché trattandosi di beni patrimoniali il cui valore d'uso è vitale, sfuggono alla logica del mercato. Perché se questi beni d'uso sono beni appunto vitali, che in passato non costavano niente, nel momento in cui vengono fatti oggetto di appropriazione privata, potenzialmente hanno un valore infinito. Hanno un valore infinito. Nel senso che non siamo liberi di non acquistarli. La consegna al mercato dell'acqua può comportare, in via di principio, l'aumento del valore di scambio dell'acqua in termini assolutamente incontrollati. Questo significa che è nella logica dei beni vitali non far parte del mercato, sia perché sono per l'appunto oggetto di diritti fondamentali, il diritto alla vita, il diritto alla salute, che sono diritti universali in quanto diritti di tutti. Ed essere diritti di tutti significa essere diritti il cui godimento è gratuito. La specificità dei diritti fondamentali è nel fatto che il loro godimento è gratuito. Nel momento stesso in cui non è gratuito, diventano merci, diventano diritti patrimoniali. E allora il carattere vitale dell'acqua, come dell'aria, come dei beni comuni, ne richiede la gratuità, il carattere per l'appunto pubblico in quanto oggetto di diritti fondamentali, che è il diritto alla salute e all'integrità. Parliamo più semplicemente di diritto all'acqua, ma come corollario del diritto alla vita. E per altro verso sono sottratti al mercato perché la legge del mercato non può valere come per le automobili, come per i diamanti oppure qualsiasi altro oggetto di consumo. E lo stesso vale anche per i farmaci di salvavita, vale anche per il cibo. Questi beni vitali non hanno prezzo, nel senso che non possono sottostare alla logica del mercato. E allora noi dobbiamo registrare come i beni fondamentali sono diventati una categoria centrale, o sono destinati, o dovrebbero diventare una categoria centrale della teoria della democrazia, da affiancare alla categoria dei diritti fondamentali, opposta strutturalmente e concettualmente alla nozione di bene patrimoniale, così come diritto fondamentale è contrapposto a diritto patrimoniale. Qual è la differenza tra diritto fondamentale e diritti patrimoniali? Non consiste tanto nel fatto che i diritti fondamentali esprimono valori o sono condivisi da tutti, i diritti patrimoniali viceversa hanno a che fare con, beni a cui si può rinunciare. La differenza è che i diritti fondamentali sono universali nel senso che sono di tutti. Questa è la specificità della loro universalità, che non vuol dire universalità del consenso, anzi sono stabiliti come universali proprio perché non tutti ne condividono il valore. Universali perché attribuiti a tutti e attraverso questa tecnica sottratti al mercato e alla disponibilità privata, contrariamente ai diritti patrimoniali che sono viceversa acquistati e venduti, si trasferiscono. I diritti fondamentali sono stabiliti direttamente da norme generali ed astratte, come sono le norme costituzionali, anche le leggi ordinarie che possono stabilire i diritti fondamentali. E ne siamo titolari qualunque cosa pensiamo o vogliamo, perché sono stabiliti da norme eteronome, sfuggono ai principi dell'autonomia. Io resto titolare del diritto di libertà o del diritto di voto, o del diritto anche di alienare e vendere dei diritti civili, dei diritti politici, dei diritti sociali, anche se non mi piacciono e anche se voglio privarmene, perché restano stabiliti da norme eteronome, mentre i diritti patrimoniali sono diritti che sono effetti di atti negoziali, di atti singolari, che per loro natura sono sottoposti a trasferimenti, si acquistano, si vendono, si diventa più ricchi, più poveri, via dicendo. E la stessa diversa struttura caratterizza la differenza tra beni fondamentali e beni patrimoniali. I beni fondamentali garantiti a tutti, salvo poi il fatto che mentre i diritti non possono, fondamentali non possono essere venduti, nel senso che la vendita non avrebbe nessun effetto, sarebbe nulla, purtroppo può accadere che un bene fondamentale, come che so, un rene, un organo del corpo umano, possa essere fatto oggetto di appropriazione e quindi va vietato come illecito, però la categoria del bene fondamentale consiste nella sottrazione al mercato, nella sua sottrazione al mercato, nell'essere beni accessibili a tutti contro i beni patrimoniali che sono le merci. E allora la ridefinizione dei beni fondamentali, la definizione di beni da sottrarre al mercato come beni comuni o come beni sociali, io credo che sia destinata sempre più a diventare un elemento costitutivo del costituzionalismo del futuro. Perché è cambiato, lo diceva Bevilacqua, il rapporto dell'uomo con la natura. È cambiato in negativo la tragedia, appunto, nel senso che alcune cose possono oggi essere distrutte, possono essere devastate. Quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto in questi decenni, no? Che era inconcepibile fino soltanto a 50 anni fa. E quindi lo sviluppo tecnologico mostra come ci sono beni vitali che emergono per l'appunto alla nostra riflessione proprio perché distruggibili a causa di questo mutato rapporto, nel senso che possiamo distruggerli. E per altro verso è cambiato il rapporto anche nel bene, perché grazie allo sviluppo tecnologico alcuni beni possono essere prodotti, per l'appunto a cominciare dai farmaci salvavita, la cui mancanza produce, come tutti sappiamo, in Africa i milioni di morti ogni anno. Del resto la medicina ha una storia di non più di 150 anni, nel senso il diritto alla salute perché è un diritto di ultima generazione? Perché è diventato possibile quel che prima era impossibile, cioè curare le malattie, guarire, è diventato un elemento del patto di convivenza tanto quanto la sopravvivenza, non solo sul piano della salute, ma in generale non è più un fatto naturale, come pensava Locke, ma è un fatto artificiale, sociale. Dipende dall'interdipendenza, dipende dai farmaci, dipende dalla salute, dipende dall'offerta di lavoro, dal mercato del lavoro. Non è più possibile l'idea sostenuta da Locke che quando tutto manca si può sempre tornare nelle terre incolte oppure emigrare nelle terre disabitate d'America. Oggi sopravvivere è un fatto sociale, artificiale, e il diritto alla sopravvivenza è un corollario del diritto alla vita, per questo sono diritti di ultima generazione, perché sono un prodotto della modernità. E allora questo vuol dire che dobbiamo prendere atto che il linguaggio dei diritti, pur essendo necessario, perché tutti i beni fondamentali sono evidentemente oggetto di altrettanti diritti fondamentali, appunto il diritto alla vita, alla sopravvivenza, alla salute, eccetera, eccetera, è tuttavia inadeguato, insufficiente, in alcuni casi non è pertinente, a mio parere. Io credo che ci siano proprio degli errori anche di grammatica, quando, tutto sommato, sono ben lontano dal criticarlo perché sono il segno di una protezione che viene viceversa offerta e di un problema che viene sollevato. La Costituzione ecuadoregna, supponiamo, stabilisce il diritto della natura come diritto soggettivo, facendo della natura un soggetto. Vabbè, finché formuliamo delle norme di carattere retorico, basta che riconosciamo che siano molto più efficaci a fare della natura un bene attraverso l'utilizzazione di vecchie categorie. categorie come i beni demaniali. Perché non introdurre un demanio planetario? E una carta dei beni fondamentali a livello mondiale, di cui dovrebbero farsi promotori i movimenti ecologisti. Del resto abbiamo già delle categorie giuridiche, sia pure molto, diciamo, elementari, il patrimonio comune dell'umanità, che è espressione introdotta dal trattato sugli spazi extraatmosferici, in realtà, quindi sono cose molto lontane, e poi del 67, poi un altro trattato sui fondi marini che introducono questa nozione di patrimonio comune dell'umanità, c'è anche un po' di letteratura su queste cose, introducendo un'autorità garante, in sostanza qualcosa di simile a un demanio, diciamo così, globale o planetario, e rispetto al quale si sottrae al mercato e si sancisce lo statuto di beni comuni di beni altrimenti esposti per l'appunto alla distruzione, all'appropriazione privata, alla devastazione. E per altro verso, appunto, l'uso della categoria dei diritti soggettivi, che pure è fondamentale, dei diritti fondamentali, i diritti di libertà tipicamente, ma ovviamente anche i diritti sociali, quando c'è una struttura istituzionale che li garantisce, e non è sufficiente a tematizzare problemi come la fame nel mondo. L'idea cioè che un abitante dell'Africa subsahariana possa dire, se mai fosse introdotta una corte internazionale a sostegno del proprio diritto, diciamo, all'acqua, al diritto alla salute, si richiede l'istituzione di una sfera pubblica, e per quel che riguarda l'acqua, il carattere di bene comune, che c'è un famoso manifesto dell'acqua che è scritto da, come si chiama, Petrella, no? Che prevede 40 litri o 50 litri come diritto all'utilizzazione gratuita dell'acqua per ciascun abitante. Cioè ciascun abitante ha diritto all'utilizzazione gratuita di una quantità minima di acqua, oltre la quale è possibile per una certa quantità un'utilizzazione, diciamo, con una qualche forma di pagamento, naturalmente, no? Di bolletta dell'acqua, ed oltre la quale è viceversa vietato la dissipazione, la distruzione, l'uso dell'acqua oltre un certo limite. Regolare l'acqua attraverso l'esclusione della privatizzazione, che paradossalmente interviene nel momento in cui l'acqua diventa un bene raro. Nel momento in cui un bene raro, dobbiamo sapere che in assenza di diritto diventa inevitabilmente patrimoniale. Un bene, qualunque sia il suo valore d'uso, anche enorme, se raro, diventa oggetto di appropriazione. Diventa privato, dotato di un valore di scambio enorme. E soltanto l'intervento del diritto può renderlo pubblico, può sottrarlo al mercato, deve sottrarlo al mercato tanto quanto si tratta di oggetti di diritti fondamentali. In assenza del diritto naturalmente diventa oggetto di appropriazione. La logica del profitto è quella, va appunto, no? L'homo economicus, va dove si può guadagnare a qualunque costo, anche a costo, per l'appunto, di privare dell'acqua, e anche a costo, problema delle centrali nucleari, di catastrofi mondiali. E allora, a me pare che accanto alla categoria dei beni fondamentali, e questa è un'altra tecnica di garanzia, oltre, appunto, attraverso il divieto di privatizzazione, con la costruzione di forme di demanio pubblico e globale, ci sia la necessità di tutelare i beni comuni da aggressioni che possono provenire da quelli che possiamo chiamare beni illeciti. I beni illeciti ci sono, pensiamo alla droga, è un bene illecito, ne è vietata la produzione. A me pare che il bene illecito che dovrebbe, diciamo, per ragioni puramente razionali essere messo al bando nella maniera più rigida dovrebbero essere le armi. No? Le armi a cosa servono? Qual è il loro uso e il loro valore d'uso? Uccidere. Quindi sono il principale fattore della criminalità. Basta pensare alla criminalità che c'è in molti paesi dell'America, che è 10 volte quella dell'Europa, in Italia nessuno porta un'arma, perché sono i civili, insomma, no, viceversa, dove le armi si comprano al supermercato, è chiaro che le armi sono un fattore di criminalità, insomma. E poi soprattutto sono il fattore della guerra, delle guerre, la principale garanzia della pace, insomma. La civilizzazione del mondo, così come si passa dallo stato di natura alla società civile, no? Pensiamo ad Hobbes, con il disarmo, la rinuncia alla libertà selvaggia e il monopolio della forza in capo allo Stato, così la civilizzazione, diciamo, a livello globale si avrà solo allorquando ci sarà il monopolio giuridico della forza in capo all'uomo. Insomma, vediamo quello che sta succedendo, no? Un intervento, appunto, che avrebbe avuto un senso se fosse stato attuato il capo settimo della Carta dell'ONU, un intervento necessitato dal fatto che avevamo una minaccia, da lì a poche ore, la possibilità dei carri armati di Gheddafi di distruggere una città, decine di migliaia, centinaia di migliaia, probabilmente, di persone, no? Vi staneremo casa per casa, non avremo pietà. Qui una minaccia alla pace c'è, cioè, evidente, insomma, no? È quella che prevede la Carta dell'ONU. Solo che in assenza di garanzie la guerra viene fatta poi dagli Stati nella maniera più scatenata, attraverso bombardamenti sulle popolazioni civili. Cioè, qui si richiede una costruzione di una sfera pubblica, che significa istituzioni pubbliche, dicevo delle armi, ma veniamo alla questione del nucleare, diciamo, così connessa con quella dell'acqua. Abbiamo 455 centrali nucleari, così ho letto sul giornale, 104 sono negli Stati Uniti, 58, 54, adesso non so, in Francia, in Giappone. La probabilità che una di queste scoppi ogni 20-30 anni, direi, va data per scontata. Cioè, è un pericolo che minaccia il pianeta e il futuro dell'umanità in maniera, direi, razionalmente va assunto come non un pericolo, ma insomma, noi abbiamo messo sulla superficie della Terra delle bombe che non sapremo come smaltire, perché poi non solo le scorie, ma anche dopo 40 anni, quando vengono dismesse, non sappiamo che farne, e quindi nei confronti delle generazioni future rischiamo di consegnare un pianeta inabitabile, o comunque di creare degli enormi problemi. E qui la sfera pubblica, qui abbiamo dovrebbe mettere al bando queste cose. Mi rendo conto della difficoltà, certamente la cosa più insensata è che un paese che fortunatamente non ce l'ha come le nostre parli di poter mettere il nucleare. È vero che ci sono le centrali nucleari in paesi vicini, ma una cosa è essere a 100 o 500 o 1000 chilometri, una cosa è essere a 10-20 chilometri, sono differenze enormi, no? Tanto è vero che in Giappone si raccomanda di allontanarsi di 20 chilometri. Ma anche il problema del mantenimento di queste centrali dovrà essere posto all'ordine del giorno, perché un pericolo di queste proporzioni non è razionalmente sostenibile. Insomma, io concludo su questo discorso sottolineando come il costituzionalismo del futuro a livello nazionale e ancor più a livello globale deve fare dei beni comuni e dei beni fondamentali il tema centrale, uno dei temi centrali. Qui purtroppo viviamo una aporia nella democrazia, a parte gli interessi che poi sono quelli che sono e che quindi finiscono a prevalere inevitabilmente in mancanza di diritto, quindi gli interessi privati, i conflitti di interesse, ma certamente c'è una miopia della spazi ristretti e tempi ristretti. La democrazia è paradossalmente legata ai tempi delle scadenze elettorali, dei sondaggi, e non ai tempi lunghi su cui si misura viceversa la difesa dei beni comuni, e agli spazi nazionali, quando il problema dei beni comuni è in gran parte un problema globale. Quindi qui viviamo una vera aporia della democrazia. L'aspetto positivo, che secondo me va sottolineato perché sarà sempre più rilevante, è che però la tematica dei beni comuni sta creando per la prima volta la percezione che facciamo parte di un'unica comunità. Una percezione dell'interdipendenza, sostanzialmente dell'uguaglianza, del fatto che non possiamo pensare di risolvere questi problemi ciascuno a danno degli altri, che può porre le premesse per rifondare, diciamo, democrazia e sfera pubblica sulla base di un interesse generale che a questo punto è veramente l'interesse di tutti nel senso universale della parola. Allora, grazie davvero anche al professor Ferraioli. Adesso il mio compito è quello di stimolare il dibattito, e non so se stimolerò il dibattito, senz'altro io ho un dibattito in testa perché ho molte domande e anche abbastanza confuse, quindi contraddittorie, quindi proverò, diciamo, a dire qualcosa e senz'altro poi passerò la parola, insomma, a voi, a chi di voi vorrà porre domande. Mi pare la cosa fondamentale che mi pare sia emersa oggi pomeriggio e che io condivido moltissimo, insomma, e quindi mi rende felice, è questa consapevolezza, questa idea che appunto il discorso quantomeno preso, insomma, nell'ottica dei beni comuni naturali, dell'ecologia, e questo tipo di discorso produce una svolta nel modo di affrontare appunto i problemi non solo ambientali, devo dire, ma appunto i problemi dei beni comuni più in generale, nella misura in cui appunto propone non di guardare ai beni comuni, ai beni fondamentali in termini quantitativi, ma propone appunto questa dimensione della complessità, della interdipendenza, della, come dire, incapacità di cogliere gli effetti differiti nel tempo, nello spazio, di ogni forma appunto di trasformazione che noi possiamo produrre. Questa è per me, io insisto molto su questa cosa perché credo che questa sia la rivoluzione paradigmatica che sta dietro a questo tipo di riflessioni, le riflessioni intorno ai beni comuni e ai beni comuni naturali in particolare. Dico questo perché, per esempio, a me quello per, come appunto è stato ripetutamente detto, il tema dei beni comuni, anche per chi si occupa di questioni ambientali, è assai recente nel linguaggio ecologico-ambientalista, non si è usato molto fino a poco tempo fa il concetto di beni comuni, e secondo me non si è usato proprio per la torsione giuridica che si è sentita sorreggere questa idea, che insomma in qualche modo contrastava quella che invece era la natura vera, il problema vero posto dall'ecologia, cioè appunto una visione complessa, una visione degli ecosistemi che appunto cambia il modo di guardare il mondo, perché ci dice che appunto il mondo, il tutto, la terra, l'ecosistema non è la somma delle singole parti, non ci sono tanti oggetti di cui noi ci dobbiamo prendere cura singolarmente, è l'interazione tra questi oggetti crea un di più, no? L'interazione tra quegli oggetti, questo è la grande, e questa è secondo me, il grande contributo appunto del pensiero ecologico, che ci può aiutare ad affrontare appunto in un modo diverso il problema dei beni comuni. Perché dico questo? Perché, per esempio, cioè, a me mette in imbarazzo, a proposito appunto di quello che diceva Matteo prima, mette in imbarazzo, mi crea difficoltà l'idea di fare un elenco dei beni comuni, no? Allora, per esempio, in campo naturale, l'acqua, l'aria, il suolo, la terra, sembra appunto costruire, come dire, individuare un elenco di oggetti, un elenco di cose che dobbiamo proteggere. Questa impostazione, secondo me, è un'impostazione che rischia appunto di portarci assai poco lontano rispetto agli obiettivi che ci proponiamo, oltre appunto al rischio dello scivolare immediatamente verso appunto poi una mercificazione, un'idea diciamo di messa in valore e quindi poi di mercificazione di quell'oggetto. Quindi questa consapevolezza appunto mi sembra che sia una delle acquisizioni più importanti che emerge insomma dal nostro incontro, ma in generale da queste riflessioni. L'altra cosa che mi interessa sottolineare, che mi colpisce molto, è quest'idea come dire, delle pratiche, delle prassi che stanno dietro appunto la definizione dei beni comuni. C'è questa idea appunto perché questa cosa sta con l'altra, cioè sta con l'idea che non esistono degli oggetti dati, circoscrivibili, individuabili, che noi definiamo come oggetti comuni, almeno in natura, diciamo, cioè nel senso ci sono, però è riduttivo come impostazione. E appunto invece questa accentuazione sull'idea di una pratica che fa emergere il senso, appunto il valore, l'idea del bene comune che deve essere garantito. Questa cosa la dico perché secondo me si ricollega a un altro tema che appunto è stato citato e che può essere, insomma, su cui volevo soltanto dire una cosa: l'idea della sostenibilità, no? Cioè come il concetto di sostenibilità è diventato, se volete, razionalizzante dell'esistente piuttosto che addirittura proprio strumentalizzato ai fini di produrre l'economia verde, insomma, e tutto quello che poi ne consegue. La stessa cosa appunto tutto sommato secondo me appunto in termini di perdita della complessità, perdita dei nessi che sta dietro all'idea della sostenibilità, cioè la sostenibilità semplicemente produco con un'altra tecnologia e va bene lo stesso, no? O produco la stessa cosa, cioè questa dimensione di oggettivare i processi storici, di oggettivare la natura, secondo me sta dietro un po' all'altro concetto, che è quello della decrescita, no? Alla Latouche, diciamo, adesso io pongo qui questo tema, e non... nel senso che a me interessa, appunto sono partita dalle pratiche, dalle prassi, perché mi interessa sottolineare il fatto che c'è, diciamo, necessità di avere un'idea soggettiva anche di che cos'è che noi, cioè dei problemi, dei limiti della crescita. C'è la necessità adesso di non cadere in una nuova teorizzazione astratta che oggettiva, no? E oggettivizza lo sviluppo e quello che bisognerebbe fare, mentre dobbiamo, secondo me, avere un'idea processuale molto forte del modo in cui si presentano i problemi, perché si presentano di volta in volta in modo differente. Volevo infine dire una cosa sul problema, diciamo, della classificazione, che è più che altro una domanda. Io non sono sicura, diciamo, della utilità appunto di una categoria come beni comuni che tenga dentro cose molto differenti tra loro, no? Cioè è una difficoltà che io ho nel momento in cui maneggio questo concetto. Appunto mi viene in mente che io sento che c'è una differenza tra parlare dei beni comuni naturali e parlare dei beni comuni digitali, non lo so, sento che c'è una differenza, no? Dopodiché non saprei io personalmente argomentarla, però sento che c'è, e come dire, ho Siccome mi occupo in particolare appunto di questioni ambientali, tanto più la pongo, anche se mentre parlavamo del problema del nucleare, dei referendum, mi è venuto in mente che il movimento antinucleare, prima ancora che essere appunto un movimento che contestava l'energia nucleare e la tecnologia nucleare, almeno in Italia, ma non solo, è stato un movimento che ha contestato il fatto che venisse imposto dall'alto appunto la localizzazione di quella centrale e che non ci fossero informazioni, notizie e conoscenze sufficienti per agire appunto dal basso, una democrazia partecipata, cioè accetto o non accetto sulla base delle informazioni e delle notizie che ho, no? E appunto la grande qualità, e questo discorso che facevo prima sulla prassi, la grande qualità del movimento ambientalista italiano tra gli anni 70 e gli anni 80 è stata proprio quella di porre il problema della democrazia partecipata intesa come democrazia informata, come accesso alle informazioni, come accesso alla conoscenza, non solo e non tanto, voglio dire, come problema che faceva paura alla centrale, si voleva saperne di più, no? Come... E quindi tutto sommato allora il bene comune come conoscenza sta dentro anche a una invece mobilitazione di stampo più prettamente ambientale e quindi qui si rimette tutto in circolo e mi si riconfondono le idee. E niente, e appunto su questa su quest'ultima cosa io che se non, forse non sembrava, ma era una domanda, cioè una richiesta di ulteriori approfondimenti, lascio la parola a chi di voi vuole intervenire. Ma posso dire una cosa, già che scusate se ma poi che tra un po' non devo andarmene, ma volevo riflettere un po' su quest'ultima cosa che tu hai detto in correlazione con quanto diceva Ferraioli, circa l'opportunità, la possibilità di elaborare una categoria di demanio globale. Allora, a me pare che questa categoria di demanio nella nostra tradizione civilistica e pubblicistica evidenzi in modo molto chiaro come, a parte che è la stessa radice, no? Demanio, dominio, è la stessa radice, come in realtà i beni pubblici, nella tassonomia ordinaria attuale, siano assolutamente gestiti nelle mani dello Stato come la proprietà privata nelle mani del privato. Un demanio può essere sdemanializzato ormai con un decretino amministrativo, può essere dato in concessione come le spiagge per sempre a quattro soldi, può essere, quindi un demanio è in qualche modo costruito, è la vera costruzione di che cosa? Della proprietà privata del principe, questa era un po' la costruzione come è nato il demanio. I beni comuni come categoria, secondo me, si articolano in contrapposizione anche al demanio, nel senso che laddove la proprietà privata ha una serie di tutele costituzionali molto forti per il suo passaggio al pubblico, il demanio nel suo passaggio al privato queste tutele costituzionali non le ha. Perché... Sì, ma si tratta di introdurle, ecco. No, voglio dire, noi abbiamo una legislazione civilistica che prevede i beni demaniali come tutti i paesi, una categoria di origine romanistica, che consente al legislatore di demanializzare, cosa che sta facendo, vende, fa, no? Sì. Il problema è costituzionalizzare i beni demaniali, costituzionalizzare i beni fondamentali, e cioè sottoporre i beni fondamentali a garanzie che li configurino come limiti e vincoli al pari dei diritti fondamentali, sottrarli cioè alla legislazione come ordinanza. È chiaro che finché i beni demaniali sono soltanto previsti dal codice civile, sono nelle mani del legislatore. È chiaro che qui ci vuole un costituzionalismo rigido in senso assoluto, e cioè non bastano maggioranze, si richiede la non modificabilità, il costituzionalismo assoluto, sono beni demaniali come l'immunità da tortura o il diritto alla vita o l'integrità personale. Questo a me pare che dovrebbe essere possibile a livello statale, ma soprattutto a livello europeo e ancor più a livello globale. Abbiamo la Carta dei diritti umani, abbiamo la Casa dell'ONU che si apre con noi, che nello spazio di due generazioni abbiamo provocato due guerre. Perché non diciamo noi che nello spazio di 40 anni stiamo distruggendo il pianeta? Stipuliamo di sottrarre alla distruzione, alla dissipazione, i seguenti beni. Il diritto positivo, fortunatamente, è una costruzione artificiale che può essere messo a tutela di se stesso, cioè a tutela degli stessi attori della politica. Questa è la logica del costituzionalismo. I beni, peraltro, sfuggono a questa... Perché nella nostra tradizione, tu lo sai meglio di tutti perché sei un civilista, i beni nel codice civile sono le merci. Si apre il libro della proprietà privata con la definizione di beni. Sono i beni mobili e i beni immobili, poi sì, ci sono anche i beni immobili, però sono i beni merci. L'idea dei beni fondamentali in opposizione ai beni patrimoniali. La nozione dei beni comuni, secondo me, viceversa, la civilistica dovrebbe impegnarsi nella categorizzazione sul piano teorico e la teoria generale. Perché come i diritti fondamentali, il discorso che si faceva poco fa, non vogliamo precostituire categorie, è chiaro che i diritti fondamentali non si sa in astratto quali sono, no? Libertà, immunità, eccetera. Ma la storia del costituzionalismo è avvenuta attraverso la positivizzazione di classi, generazioni di diritti fondamentali di volta in volta rivendicati da altrettante generazioni rivoluzionarie, i diritti di libertà, i diritti di operai, i diritti sociali. È chiaro che non è precostituibile, però si tratta di definirli. Cioè non possiamo parlare dei diritti fondamentali in astratto, per cui avessimo una Costituzione che dice i diritti dell'uomo, e cioè la dignità della persona, e chiudere qui. No, dobbiamo dire l'immunità da tortura, dobbiamo dire la libertà di pensiero. Così come dobbiamo dire l'acqua, dobbiamo dire le spiagge, dobbiamo dire l'aria, l'atmosfera, cioè dobbiamo chiamarli. Poi sarà la storia che di volta in volta ci porterà a introdurre come beni comuni, come beni vitali, come beni fondamentali, oltre ai farmaci salvavita, che so, l'alimentazione di base, trovare le tecniche, i giuristi sono capaci di fare queste cose, ma l'importante è costruirle sulla base di una consapevolezza prodotta da, appunto, dalla politica, dalle lotte sociali, certamente non dalla politica che fa di tutto per, viceversa, opporsi a questi processi, però i processi fortunatamente vanno avanti. No, se no parliamo noi. Monopolizza tutto. Ha già fatto una relazione introduttiva. Cioè, io sarebbe più corretto dare la precedenza alle richieste di osservazioni, di domande dei discenti, diciamo, di questa scuola. Però siccome poi il professor Mattei va via, volevo dire subito qualcosa che può forse aiutare nella riflessione ulteriore. Dico subito qualcosa in termini assolutamente problematici e dubitativi, perché stiamo appunto facendo una riflessione, non stiamo arrivando certamente a delle conclusioni. Io mi sento molto vicina allo spirito costruttivista, lo definirò così, del professor Ferraioli, che quindi ha anche una forte carica che sottolinea la socialità della costruzione, l'artificialità nel senso di costruzione sociale, appunto, che anche in termini di evoluzione del diritto dovremmo perseguire. Credo di capire che la resistenza che fa il professor Mattei a usare espressioni come demanio, anche per la costruzione di un demanio globale dei beni fondamentali, derivi da qualcosa che non è abbastanza specificato, data la brevità della nostra discussione, su cui varrebbe la pena di continuare una riflessione. Ed è espressa questa cosa, a parte in altre affermazioni che io non condivido del professor Mattei, come quella che quando ci ha detto ogni volta che si dà un premio Nobel il premio Nobel significa che si sta costituendo un mainstream. No, il premio Nobel Amartya Sen non ha iscritto Amartya Sen nel mainstream, così come non ha iscritto Stiglitz nel mainstream. Quindi forse la Ostrom c'era già iscritta per conto suo nel mainstream, e quindi possiamo fare una discussione su questo. Però ecco, non annienterei, diciamo, i segnali che quando viene dato un premio Nobel che fuoriesce esattamente dalle aspettative che il mainstream invece avrebbe, sono segnali di cui non dobbiamo perdere il valore, del fatto che qualcosa si sta muovendo molto importante, che fuoriesce per l'appunto dai paradigmi, e quindi apprezziamo questo. Ma diciamo, la resistenza a usare la parola demanio forse è legata a quella dicotomia che Ugo Mattei ricostruisce, che vede la tenaglia sui beni comuni minacciata da una parte dalla centralizzazione dello Stato, dall'altra dalla appropriazione della proprietà privata. Io ho l'impressione che questa ricostruzione a sua volta sia figlia di un'idea che dello Stato, della formazione dello Stato, degli Stati-nazione e dell'evoluzione della democrazia, vede soprattutto un aspetto, smarrendo gli elementi in tensione e in contraddizione che storicamente ci sono stati e a oggi mi sembrano enormemente operanti, per esempio nell'articolazione delle sfere pubbliche a livello nazionale, a livello continentale, a livello globale. E non per caso il professor Ferraioli faceva riferimento a questa necessità di ancorarsi alle sfere pubbliche a livello mondiale. Cioè, quando ragioniamo della civilizzazione e dell'apporto che trattare i beni comuni può portare alla civilizzazione, non corriamo il rischio di fare addirittura delle regressioni rispetto a quel processo, per l'appunto, di costruzione, e uso il termine proprio anche in senso di riferimento filosofico, normativo, a tutte le istanze costruttivistiche, per esempio alla Kant, all'Emanuele Kant, che sono nate dall'illuminismo in poi, che hanno portato a quella articolazione della mediazione istituzionale attraverso cui è stato possibile normare, rendere linguisticamente comunicabile, articolabile un universo, per l'appunto, di diritti, di articolazioni, di visioni dei soggetti, della soggettività, del rapporto tra soggetto e oggetto, che se ci priva di questa mediazione istituzionale terza, che è per l'appunto la terzietà della mediazione che ha funzionato nello Stato di diritto, e ci consegna a una immediatezza nella quale tutto è riassorbito dentro qualcosa che i beni comuni sostituiscono loro, per l'appunto quella terzietà della mediazione, io penso che questo non sarebbe un avanzamento, ma potrebbe essere addirittura una regressione. Forse sono stata sicuramente molto confusa, ma prima che il professor Mattei andasse via volevo dire questa cosa. Adesso non so se lui si può fermare anche per ascoltare qualcun altro, oppure se vuole dirci. Lui ha maggior ragione, va bene. No, ancora qualche un minuto. La signora con gli occhiali. Sì, buonasera. No, volevo cercare di capire forse un po' meglio appunto il discorso che stava facendo il dottor Ferraio a proposito della difficoltà di rendere così esplicito nel diritto il valore dei beni comuni e quindi la necessità di proteggerli, di tutelarli per un bene che insomma, è sotto gli occhi di tutti, insomma, anche per le generazioni future. Mi chiedevo, ma i protocolli di Kyoto, i vari convegni così a livello planetario che si stanno svolgendo ancora che si sono fatti, ovviamente devono essere serviti come punto di partenza e come divulgazione e far capire a tutti quanti quali erano i rischi a cui andiamo incontro e quali sono stati i danni che sono stati provocati fino ad ora. Perché da qui non si può partire, come per dire sono partiti i vari costituenti quando hanno fatto le costituzioni che tuttora rimangono, partendo dalle macerie di una guerra, insomma, no? Qual è la difficoltà? Dobbiamo rispondere prima. Forse. No, va, facciamo prima le altre domande. Siccome, scusami. Dopo un secondo, Laura, voglio dire questo. Chiaramente noi abbiamo, ma lo sappiamo benissimo, quindi non è che sia una novità, abbiamo una diversa impostazione rispetto a che cosa riteniamo mainstream. Per me mainstream è il pensiero borghese liberale di cui Amartya Sen, Stiglitz e tu siete parte. Io, certo, io invece la penso, no, questo con estrema chiarezza, io la penso diversamente, per cui chiaramente io resisto all'utilizzo di categorie liberali come appunto il demanio, che è categoria squisitamente nata nell'assolutismo, nella modernità, voglio dire. Ma c'era anche in diritto romano. Sì, però voglio dire, strutturato nel modo in cui è, secondo me fa parte di quell'armamentario giuridico dell'assolutismo giuridico. Per me il nemico è l'assolutismo giuridico, ecco. E vorrei costruire un'idea di beni comuni che sia capace di superare le strettoie dell'assolutismo giuridico, tutto qui. È ovvio che non si fa in 5 minuti, nel senso che sono cose di lungo tempo, però è questa poi forse la prima differenza. Diamo un altro nome, ma mi va bene la carta. No, a pubblico e privato dobbiamo farne a meno. Perché scusami, però c'è una persona segnata. No, ti intervieni. Adesso lo tempesto di. No, cedo volentieri, perché io avrei da ridire di nuovo a me. È uguale. Ma in realtà io mi volevo riallacciare un po' al discorso che si faceva prima sul fatto di considerare mainstream o no l'Austrum, perché diciamo noto una contraddizione, nel senso che lei, a mio parere, giustamente dice bisogna trovare una terza strada tra Stato e proprietà, però poi critica l'Austrum che in fondo suggerisce una terza strada che è quella delle aggregazioni comunitarie, insomma fa una serie di casi che poi potrebbero essere un modello gestionale dei beni comuni. E allora non riuscivo a capire, a riconciliare questa contraddizione. Io poi ritengo che quello del 2009 sia in particolare un panel, diciamo il panel che ha attribuito i Nobel nel 2009, che è tutt'altro che mainstream, perché attribuisce il Nobel per la pace a Obama soltanto sulla base di un discorso, e gli effetti di quel discorso li stiamo vedendo oggi nel 2011, quindi forse era un panel che aveva la capacità di guardare avanti, insomma, più che nel mainstream. È questo che secondo me non si riconcilia nel suo ragionamento. Giusto se riesce a chiarirmi questa contraddizione che io forse vedo. Io non avevo, guarda, sul fatto, cioè ovviamente poi dopo diventa una... L'unica cosa che il punto che io della Ostrom volevo discutere, dicevo che era mainstream, quello che sto dicendo è che c'è un ampio filone della teoria economica elaborata nei dipartimenti economici delle università dell'Ivy League da ormai 10 anni, che è il neoistituzionalismo, il quale sta nettamente all'interno del paradigma liberale che io contesto. Per cui, essendo che per me mainstream è il paradigma liberale, come ho detto un minuto fa e come ripeto davanti a tutti, ovviamente anche Ostrom da questo punto di vista non mette in discussione quelle che sono le dinamiche di potere sottostante al paradigma liberale, ma si muove all'interno di un tentativo, come dire, di tagliare le unghie, di renderlo presentabile, di fargli indossare i guanti, non lo so, mettiamola come vogliamo. Che a mio modo di vedere questo costituisce un limite, perché invece un ripensamento ecologico dei rapporti sociali non richiede un aggiustamento del modello dell'homo economicus, ma richiede una sovversione radicale di quello che è il modo di vedere queste dinamiche. Questo era il mio punto di vista. Vabbè, dai, continueremo a chiacchierare. Ciao, grazie. No, ma lascia tu. No, dai. Parliamo dei beni comuni, però. Sì, io volevo semplicemente però tornare su questa questione, perché obiettivamente, un po' perché ci conosciamo, io vorrei fare parte del mainstream, ma non sono ai margini anche di me stesso, ma soprattutto con mio amico Paolo Cacciari. Io noto che quando si discute, adesso sto scherzando, però c'è un fondo di serietà in quanto dico, di questo tema, c'è sempre una venatura di antistatalismo che è sottostante, che andrebbe esplicitata per il bene comune di tutti, per il bene comune della reciproca convinzione. Allora io vorrei fare questo esempio. Ferraioli, con cui generalmente e anche in questo caso concorda, dice sostanzialmente: il bene fondamentale è un bene gratuito. Luigi, questo è vero, ma è un'affermazione di principio. Il diritto fondamentale. Se il diritto fondamentale consiste nella fruizione di un bene comune, nella fattispecie l'acqua, non è affatto gratuito dal punto di vista naturale, a meno del caso molto circoscritto dell'individuo che abita in riva al ruscello, possibilmente di una fonte limpida e pulita, e non sta nel reclamo della levissima, ma è un uomo naturale. In tutti gli altri casi, cioè il 99,9% della popolazione mondiale, la fruizione del bene comune acqua, che è anche un diritto fondamentale, non è affatto gratuito. Perché c'è bisogno di un acquedotto, perché c'è bisogno di un allacciamento, perché c'è bisogno di uno spostamento, se non viene l'acqua a me io devo andare all'acqua. Cosa interviene? Questo è il punto essenziale, vorrei dire solo questo. Per rendere effettivamente gratuito quel diritto fondamentale, la fruizione di quel bene comune, una proprietà pubblica e una gestione pubblica dell'acquedotto, se voi me la declinate a livello comunale, non cambia assolutamente nulla, perché sempre di articolazione statuale stiamo parlando. Questo me la rende gratuita, nel senso che naturalmente il costo della trasformazione della natura, consistente nella costruzione e nella gestione di un acquedotto che fornisce acqua buona e pulita a tutti, è suddiviso, secondo il meccanismo delle fasce sociali, quindi dell'assoluta gratuità per alcuni, nella comunità, da una istituzione pubblica. A me pare che sia meglio un'istituzione pubblica che non una somma di piccole istituzioni private, cioè di piccoli privati che entrano in società. Che poi questa istituzione pubblica sia il comune o sia lo Stato, questo è del tutto secondario, a me pare estremamente ovvio. Probabilmente è meglio se è un comune, per forza di cose, visto che abbiamo a che fare con un territorio fisico, come dire, fortemente materiale, ma sempre di istituzione pubblica che detiene una proprietà. Questo punto, secondo me, non può essere saltato, perché è esattamente il nocciolo del referendum che andiamo a fare. Ciò che rende gratuito effettivamente l'acqua è solo e soltanto la proprietà pubblica, nella misura in cui il suo costo suddiviso di persona per persona non supera il costo effettivo che il pubblico ha speso per costruire l'acquedotto, una volta caricato sulle spalle del più abbiente ciò che il non abbiente non può pagare. E quindi non ci sono margini, non c'è, diciamo, creazione di plusvalore, seppure sotto forma di plusvalore commerciale, proprio perché è pubblico. Ma questo a me pare un argomento forte, insomma. Se espungiamo invece la proprietà pubblica e ne facciamo quasi come una distinzione filosofica tra ciò che è comune e tra ciò che è pubblico, e io continuo a non capire in che cosa consista, così come non capisco il libro di Toni Negri, in altre parole, tra ciò che è comune, tra ciò che è pubblico e tra ciò che è statale, a mio parere, modestissimo naturalmente, noi indeboliamo il tipo di battaglia che dobbiamo fare e anche il concetto di bene comune che abbiamo. Poi vorrei ritornare, ma adesso non è il caso, su un'altra confusione, lavoro bene comune, che è altramente indicativa di una confusione su questo tema, che rischia di nuocere al concetto di bene pubblico e al concetto di lavoro contemporaneamente allo stesso modo. È paradossale, perché la più grande manifestazione che c'è stata è stata fatta con questa parola d'ordine. Il convegno che è stato fatto a Marghera, che era molto bello, è stato fatto con questa parola d'ordine. Forse sarebbe meglio che ci interrogassimo un po' più a fondo sul perché, diciamo, per come dire, sostenere una causa giusta ricorriamo, secondo me, una concettualizzazione che è sbagliata, secondo me naturalmente, e che non è neppure utile ai fini della causa giusta che vogliamo portare avanti. Per me è una transizione, quello che tu dici, io sono d'accordo in questa bene. Ma buonasera, io sono Paolo Cacciari, sono pieno di sollecitazioni dalle ottime, splendide relazioni che avete fatto. Vorrei partire dallo stimolo che ha dato Katia Papa introducendo su questo appunto difficoltà insomma nel maneggiare questo concetto di beni comuni. Con una battuta, se posso farla, appunto, Katia diceva appunto che aveva difficoltà nel capire le differenze tra beni comuni materici e beni comuni cognitivi, immateriali e così via. Faccio uno scherzo che facciamo di solito quando facciamo anche queste conferenze sull'acqua, no? Può capitare fra qualche anno che entri un signore qui e chieda all'organizzatrice del convegno se ha pagato i diritti all'uso della lingua italiana. Arriva un super SIAE con un bollettino e un centesimo al minuto i relatori pagano l'uso della lingua italiana, perché il Tremonti di turno ha stabilito che la tutela, l'ente che tutela la lingua italiana è certamente lo Stato, e quindi il governo pro tempore che gestisce lo Stato può benissimo appaltare al Zanichelli, al Devoto Oli, non so chi, la tutela e l'uso della lingua italiana, e ne viene fuori un benissimo. Guardate che non è esattamente quello che sta succedendo con l'acqua, esattamente quello che sta succedendo con i boschi. In Gran Bretagna hanno, il governo Cameron ha privatizzato i boschi, per cui ci saranno delle barre, anche un comune può privatizzare il dialetto. No, continuiamo su questo. La mia regione, il Veneto, ieri ha approvato una legge per cui si chiama lingua minoritaria ed è il dialetto, e io penso che un buon decreto federale possa prevedere che le regioni possano mettere una tariffa all'uso dei dialetti regionali, e così risolviamo anche i problemi di competenza tra regioni e così via. Allora, che cosa sono i beni comuni? I beni comuni, secondo me, sono al nodo, insomma, sono essenzialmente solo di due tipi, insomma. Sono diciamo i beni del creato, per usare una parola che anche Engels usava, quindi anche sono autorizzato a usarla anch'io, cioè sono i beni, appunto, che sono i beni della natura, insomma, sono i beni e i servizi ecosistemici, insomma, quelli gratuiti e così via, e sono i lasciti dei patrimoni, che sono stati i lasciti del lavoro, della genialità, dell'inventiva delle generazioni precedenti alle nostre, no? Sono le culture, sono i beni i beni artistici e monumentali, sono i codici, sono le lingue, sono tutte queste cose, cioè sono cose che noi abbiamo ereditato, cose nessuno che si può alzare e in coscienza, in fede, può dire di avere fatto in proprio, e quindi di poter accampare qualsiasi diritto di fare, disfare, comprare e vendere, perché non sono suoi, c'è solo un artificio giuridico predatorio che gli ha assegnato dei diritti a scapito di altri, di esclusività. Allora, se i beni e i servizi comuni sono tutto ciò appunto che abbiamo ereditato dalla natura o dalle generazioni passate, è evidente che la gestione di questi beni devono fare agio a un principio, che è un principio etico, un principio morale, un principio prepolitico, un principio a cui la politica si dovrebbe ispirare, se non è solamente amministrazione dell'esistente, che è quello della non esclusività. molto semplice, cioè i benefici che derivano dalla usufruizione, non si dice così, dalla fruizione di questi beni e servizi devono ricadere a tutta l'umanità, non possono essere appropriati per qualsiasi artificio che la storia dell'umanità, cioè una storia di violenze, di appropriazioni, di lotta di classe, di guerra, eccetera, ha assegnato ad alcuni e non ad altri, anche se questa assegnazione può passare attraverso lo Stato e la concessione di diritti di esclusiva da parte dello Stato. No, contestiamo questo. Allora, io sono assolutamente d'accordo, i beni comuni non sono una nuova categoria merceologica, sono un processo di riconoscimento sociale, sono l'acqua in Ecuador e in Italia, sono internet in Egitto e in Maghreb, dove appunto a un certo punto sembrava che un leader delle rivolte fosse un hacker, no? Fosse un blogger. La laguna di Marano a Marano, dove l'antica comunità di Marano, per diritti ancestrali, che è riuscita a passare, diciamo, l'impero austro-ungarico, i francesi, il Regno d'Italia, l'unico che non riesce adesso, che sembra, è la regione autonoma del Friuli, no? Che ha detto no, bisogna statalizzarli, demanializzarli, ma quelle sono antiche regole di uso comune, comunitario, gestite straordinariamente bene, appunto. Allora, sono la cultura, sono queste cose, sono beni comuni locali o globali, sono beni comuni gratuiti o non gratuiti, sono beni comuni, questa tassonometria che è importantissima riconoscerla, perché sono perfettamente d'accordo con Ferraioli, dopo occorre, diciamo, degli interventi specifici per tutelare queste cose qui, quindi bisogna sapere se è un bene comune globale, un bene comune locale, se è un bene comune limitato o un bene comune addirittura, penso ai beni comuni culturali che invece più li usano, diciamo, più acquistano valore, no? Che non hanno nessun limite fisico. Quindi occorrono poi delle politiche specifiche per tutelare questi beni comuni. Ma questo viene dopo. Il punto, la grande novità che sta avvenendo da qualche mese, da qualche anno, è che c'è la società che ha preso questo, chiamiamolo slogan, chiamiamolo concetto, chiamiamolo cosa, ne ha fatto proprio, ed è un grandissimo processo di politicizzazione, perché è evidente il significato che è, no? Il significato è contrappositivo, no? È un bene comune perché non voglio che sia privatizzato, perché lo riconosco come un bene collettivo e che quindi deve essere gestito in modo collettivo, non può essere gestito da una società di capitale, fosse anche quel capitale pubblico. Non può essere, perché quella logica è una logica che è una logica di esclusività. Quindi è straordinario quello che sta avvenendo, che noi dovremmo, secondo me, assecondare, sapendo che in questa fase non avrei tanti problemi nel fare, diciamo, l'esame del sangue o questa cosa qui. C'è il nostro amico Ciro Pesacane che l'altro giorno mi ha detto: ma sai Paolo, hai proprio ragione, perché nello stadio, nella curva del San Paolo a Napoli, è uscito uno striscione con scritto Cavani è un bene comune. Cavani è un giocatore di calcio particolarmente amato da quella cosa lì. Mi va benissimo, perché è contrappositivo ad un'idea diciamo appunto di gestione esclusiva, privatistica e arrogante, diciamo, di beni e servizi che invece una comunità, una delle comunità, dei cittadini, dei luoghi, degli abitanti dei luoghi riconoscono come propri e ne rivendicano, diciamo, una partecipazione alla decisione, quindi davvero, sono davvero convinto che è un grande processo di pratica democratica, non di pratica, quindi diciamo prima di essere una categoria, insomma i beni comuni sono un repertorio di buone pratiche locali, di riappropriazione di cose che vengono riconosciute e sentite come proprie. Rimangono aperti dei problemi grandi. Secondo me, la cosa che volevo chiedere a Ferraioli, insomma, secondo me se andiamo, diciamo, alle ultime conseguenze di questo ragionamento, e andiamo davvero alla Costituzione, alle nuove Costituzioni sudamericane, che secondo me sono davvero una rottura. Sono una rottura col pensiero giuridico occidentale. Ma io dico ben venga, perché dobbiamo essere così affezionati a queste costruzioni nostre che insomma fanno il paio con, diciamo, con la crisi di civiltà, che è con la decadenza culturale, oltre che con l'insipienza nella gestione ambientale e così via, che ha questo nostro Occidente. Ben venga questa rottura epistemologica, non so come chiamarla, per cui Pachamama diventa, Madre Terra diventa un bene, esattamente come avevamo pensato noi occidentali, la salute, un bene non negoziabile. Cioè mettiamo in discussione i fondamenti dell'illuminismo, l'origine del capitalismo, mettiamo in discussione le radici del capitalismo. Esattamente questo, secondo me questa è la cosa di fronte alla crisi sistemica in cui è giunto il capitalismo. Noi dobbiamo mettere in campo un'altra proprio cultura, proprio un'altra, non è una crisi di poco conto, è una crisi del pensiero, una crisi delle ragioni quella delle, e secondo me questo discorso dei beni comuni alla lunga va anche finalmente a rimettere in discussione queste cose. L'ultima questione su Mattei che è andato via, io sono d'accordissimo che invece la vera partita si gioca sulle sperimentazioni, perché mi va benissimo dire io non ho nessunissima nostalgia delle municipalizzate, le municipalizzate che ho visto io anche dall'interno facevano letteralmente ribrezzo, diciamo, e sappiamo tutte le terapie. Però qui dobbiamo inventarci dei sistemi di gestione nuovi. Gli usi civici mi paiono delle cose da recuperare. In questo senso mi va benissimo la Ostrom, perché la Ostrom mi mette in mostra proprio che c'è una terza via tra lo Stato e il mercato, ibrida, sperimentale e così via, che è più efficiente anche nel produrre ricchezza, semplicemente nel produrre ricchezza, non solo nell'economicità. Dobbiamo inventarci, bisogna avere fantasia, bisogna pensare al nuovo. Allora, io vorrei riallacciarmi prima di tutto all'ultimo intervento, con il quale concordo in grossa parte, anche se ho visto un po' di stanchezza negli sguardi intorno. E quando si affronta un discorso del tipo, diciamo, più globale, allora mettiamo in gioco l'illuminismo, il capitalismo, eccetera, vedo sguardi che si alzano al cielo. E questa cosa devo dire che... Cioè non è molto conseguente con i discorsi che sono stati fatti, che li trovo molto, diciamo, innovativi. E io vorrei riprendere di nuovo il discorso della Ostrom, non perché voglio dare un giudizio su di lei o che non lo so. E ho notato che il suo primo libro, Governare i beni comuni, che veramente vorrei chiamare i commons, non so, non c'è una parola italiana che escluda il termine beni, perché è veramente fastidioso. Questo suo primo libro, secondo me, è molto diverso da quello che è venuto dopo, cioè da tutto quello che fanno i suoi seguaci, la sua scuola, eccetera, che tentano di normare dei comportamenti che, secondo me, vengono completamente travisati attraverso proprio una tassonomia proprio. Allora, volevo soltanto sottolineare degli spunti che secondo me dà il suo lavoro. Prima di tutto quello della questa terza via che, non so, possiamo definire autogestione. Beh, questo mette in gioco lo stesso concetto di democrazia. Cioè, io vedo che mi sembra di aver capito, forse sono andata più in là delle sue intenzioni, ma mi sembra di aver capito che la gestione di questi beni comuni, non lo so, l'acqua per l'irrigazione, avvenga attraverso un'altra forma, che è il consenso. Se tutti quelli che gestiscono questi beni, che si appropriano dell'acqua, non avessero questo metodo, non funzionerebbe. Non funzionerebbe, vediamo per esempio soltanto il fatto della, cioè del coinvolgimento di queste persone in questa gestione, della stessa, del lavoro che devono prestare affinché tutto questo, affinché il bene comune venga suddiviso in modo equo. E qui si parla di lavoro in comune. E anche per esempio cioè il fatto di sanzionare poi, no, quelli che e devo dire in modo molto graduale, quasi materno, sanzionare quelli che trasgrediscono. Allora, tutto questo non è di poco conto. Io devo dire che non sapevo niente dei beni comuni, e leggendo questo libro mi sono stupita del fatto che gli avessero dato un premio Nobel, perché aveva delle conseguenze e cioè costruendo su questi principi si arriva a tutt'altro, no, di quello che è la società attuale. Secondo me, forse vado troppo in là, però comunque sono uno spunto diciamo gigantesco. Per esempio il fatto che questa acqua viene usata e non appropriata, che è un'altra cosa, cioè non lo so, io credo comunque che dia degli spunti eccezionali proprio di cambiamento delle regole della convivenza, anche perché non credo che continuare a normare, a tirar fuori il diritto, cioè non credo che il diritto sia dirimente, per fare un gioco di parole, rispetto a delle problematiche. Secondo me il diritto viene dopo la pratica. La può anche anticipare, la può regolare. E dopo. Magari. Se vuole. C'è anche un collega brasiliano. Quello serve per parlare. Quello serve per parlare. Sì, sì. Dicevo che il diritto normalmente fotografa ciò che accade nella società, però voglio dire, in questo caso mi sembra un po' una gabbia dalla quale non possa scaturire effettivamente un'utilità, perché comunque sarebbe sempre a rincorrere dei fenomeni che si stanno sviluppando ovunque e sono sotto gli occhi di tutti noi, e probabilmente potrebbe anche diventare un freno in questo senso. Quindi ben venga la pratica di tutti i giorni. Qualcun altro voleva intervenire? Qualcun altro, così poi concludiamo. C'è qualche altra riflessione? Io su questa cosa del diritto vorrei dire. Sì, sì, no, ma senz'altro adesso vi do. Intervieni te. No, appunto, allora poi semmai. Io volevo soltanto dire una cosa, che è secondo me la cosa che fa la differenza. Io non parlo e non penso come Ugo Mattei, però insomma il discorso che facevo delle pratiche, appunto, del problema della, cioè secondo me la differenza è tra, come dire, nell'intenzionalità, l'idea, appunto, che questo concetto di beni comuni, tanto più con la visione, appunto, agganciata alla visione del mondo ecologica, sia il volano della trasformazione del modello di sviluppo e di comunità, insomma, cioè il senso detto, paradigma liberale, non paradigma liberale, come vi pare. L'idea è che a me quello che mi mette in sospetto è di una elencazione di tutti i beni comuni, è che diventi semplicemente, appunto, lo citavo prima, come la teoria della sostenibilità, un modo per rirazionalizzare, perché a me vanno bene perfettamente bene, ci mancherebbero le tecniche di tutela, no? Il divieto di aprire. Temo soltanto, cioè temo, avrei l'aspirazione di usare questo concetto per provare a proporre una più radicale trasformazione del modello di sviluppo, no? Questo è, diciamo, detto in altri termini, quello che ho detto prima, e totalmente in altri termini, però penso in qualche modo anche quello che diceva il professor Mattei, insomma l'idea E detto questo, professor Bevilacqua. Sì, molto brevemente, anche perché non ci sono state domande rivolte direttamente a me, cerco di rispondere innanzitutto a Katia Papa. Io non metterei sullo stesso piano di rischio, no, di fagocitazione del concetto di sostenibilità con quello di beni comuni, perché la sostenibilità è nata come aggettivo nel 1986, come aggettivo appiccicato a sviluppo sostenibile. Sì, sviluppo sostenibile, ma lo sviluppo non era messo in discussione minimamente, era quindi solo una copertura, quindi già in radice alla nascita il concetto di sostenibilità era un alibi a continuare come prima, diciamo, no? As usual, come si dice. Allora, io sono molto d'accordo con la definizione che dava Paolo Cacciari, che tra l'altro è una definizione storica, diciamo, coincide molto con, diciamo, il tentativo che io ho cercato di fare oggi pomeriggio, cioè dimostrare come l'emersione rispetto alla tradizione dei commons del concetto di bene comune sia un processo, per usare le parole di Cacciari, di riconoscimento sociale, io aggiungerei scientifico e culturale, no? C'è tutta la scoperta del fatto che noi siamo cittadini di una casa comune sempre più piccola, con risorse sempre più limitate. Ora non la faccio lunga su questo, ma io direi che questo concetto ha una potenza di senso comune dirompente. Paolo citava il caso di Cavani, secondo me è molto significativo, non c'entra nulla che sia stato comprato con fior di milioni eccetera, ma come dire, no? Questo far diventare un concetto che naturalmente ha bisogno di definizioni, ha bisogno della scientificità, ma la scientificità è per gli studiosi, è naturalmente per i giuristi, per coloro i quali devono mettere le mani non solo nella definizione ma nella fruizione dei beni. Ma a livello politico questo concetto ha una immediatezza di percezione che è enorme. Cioè è la nuova narrazione. Mattei ha ricordato una cosa importantissima. Noi dagli anni 80 siamo stati sovrastati da un'onda culturale a cui diamo il nome di neoliberismo, che ha reso impresentabile tutto ciò che è comune, non solo tutto ciò che è pubblico e non solo tutto ciò che è statale. Noi abbiamo subito in silenzio tutto questo e la resistenza e l'alzata di sopracciglia anche di Alfonso Gianni quando noi critichiamo il capitalismo deriva anche da questo assoggettamento che noi abbiamo subito, da questo soggiogamento culturale che ci è calato addosso. Perché? Perché il pubblico è fallito, è crollata l'URSS, è crollato il più grandioso esperimento, no, di messa in comune, diciamo, di tutti i beni che sia stato mai realizzato nella storia. Allora, io non ho paura dell'anticapitalismo. L'anticapitalismo, cioè una visione radicale del mondo, è quello di cui non possiamo assolutamente fare a meno. Naturalmente il problema è poi la traducibilità politica, la traduzione politica di un passaggio. Allora, a proposito del bene comune lavoro, è chiaro che non può essere assimilato all'acqua il lavoro, però né concettualmente né da un punto di vista giuridico, però lo sforzo di sottrarre il lavoro alla sua mercificazione, al suo annientamento attuale e diciamo farlo sentire come un bene comune a tutti significa rompere una sensibilità consolidata, cioè è un cuneo rivoluzionario potente, per usare queste vecchie parole, nella cultura, che si inserisce nella cultura dominante. Noi di questo abbiamo un estremo bisogno. Io con con l'amico Paolo, ho polemizzato a proposito, e finisco davvero, a proposito della traducibilità e praticabilità del concetto di decrescita, cosa nella quale da un punto di vista teorico io credo, no? Cioè, chi ce l'ha ordinato che dobbiamo crescere continuamente? Basterebbe redistribuire le ricchezze che già ci sono e potremmo. Ecco, però da un punto di vista di traducibilità politica, tattica, di vita quotidiana, di propaganda, di slogan, non è, come faccio ad andare dal disoccupato e parlargli di decrescita? Con la vecchina, alla vecchina non riesco a spiegare che cos'è la decrescita, ma i beni comuni sì, nel momento in cui l'esplosione nucleare in Giappone mostra quanto è piccolo questo mondo, mostra quanto siamo tutti interconnessi. Parlare di beni comuni, secondo me, ha una valenza rivoluzionaria che noi dobbiamo saper gestire, tradurre, elaborare, applicare. Sono stati sollevati tantissimi problemi. Una cosa iniziale, a proposito degli ultimi interventi sul diritto, l'idea che il diritto rincorra la realtà, rifletta la realtà, comunque sia una sovrastruttura, come si diceva una volta. E io credo che questa sia una delle più grandi cantonate del pensiero, purtroppo anche di sinistra. Il diritto è uno strumento, di per sé può avere qualsiasi contenuto, no? Ma il diritto può essere uno strumento di trasformazione della realtà. Il diritto può essere uno strumento di trasformazione della realtà ed è anzi, diciamo, per sua natura, nel momento stesso in cui si trasforma in sistemi di limiti e di vincoli ai poteri, è contro la realtà. Il diritto è sempre nella, diciamo, struttura costituzionale delle democrazie odierne, nel dover essere purtroppo molto lontano dalla realtà, tracciato dalle tante carte, contro la realtà. In altre parole, è contro la legge del più forte che vigerebbe in sua assenza e quantomeno i diritti fondamentali, e i beni fondamentali, i beni comuni sono le leggi del più debole, ineffettive, violate, prive di garanzie, ma sono precisamente le leggi del più debole, sono contro la realtà. In assenza di diritto c'è lo stato di natura, c'è la legge del più forte, oppure meccanismi disciplinari. Mattei parlava del paradigma liberale. Io ho un grande rispetto della tradizione marxista. Penso che Marx abbia cambiato il modo di pensare il mondo, il punto di vista degli oppressi, come diceva Bobbio, ha rifondato la politica, ha dato nuovi orizzonti alla politica, ha portato alla politica le masse, ma il contributo del marxismo al diritto è stato zero. Io credo che su questo dobbiamo essere molto chiari. Sono convinto che una delle ragioni del fallimento di quella grande speranza che è stato il comunismo è stato il disprezzo per il diritto, e cioè dei limiti e dei vincoli al potere. Il comunismo è fallito per tante ragioni, ma anche per l'idea di potersi affidare ad un potere buono, no? Abbiamo preso il potere, la dittatura del proletariato, e quindi il potere buono non ha bisogno di limiti e di vincoli. Questa è stata una grande illusione che io credo non abbia avuto certamente Marx, ma che tuttavia è stata presente nella tradizione comunista. È la negazione per l'appunto del diritto come limite, il vincolo. In questo senso è assolutamente simmetrica l'ideologia liberale, liberista. Il liberismo è altrettanto mancanza di limiti e di vincoli, non ai poteri pubblici ma ai poteri privati. I poteri privati vengono presentati come libertà a causa di un equivoco concettuale che risale a Locke e rispetto a cui è stato subalterno Marx, e cioè proprietà e libertà sono la stessa cosa, invece sono cose diverse, addirittura opposte. I diritti patrimoniali, le proprietà si trasferiscono, sono la base della disuguaglianza, sono fattori di esclusione. I diritti fondamentali e cruciali della libertà sono uguali, sono universali nel senso in cui dicevo prima. Quindi abbiamo due modi di negare il diritto e sono quelli che producono altrettanti poteri selvaggi, pubblici o privati, disciplinari, autoritari, limitati oppure privati. Ma insomma questo, diciamo, in via generale avrebbe dovuto essere molto sommario. Le questioni che sono state sollevate, dice giustamente Alfonso Gianni, bene fondamentale è un bene gratuito, come i diritti fondamentali. La loro universalità consiste nell'essere gratuiti, garantiti a tutti, ma richiedono garanzie. Non basta scrivere in una Costituzione il diritto alla salute, se poi non costruiamo gli ospedali, o il diritto all'istruzione, se poi non costruiamo le scuole. Cioè, sono necessarie istituzioni pubbliche, siano statali, che siano comunali, che siano globali. Alcune istituzioni di garanzia non possono che essere globali, dobbiamo rendercene conto, no? I problemi che stiamo affrontando sull'ambiente, eccetera, eccetera, alcune istituzioni di garanzia non possono che essere globali, ma è necessaria una sfera pubblica. Una sfera pubblica che naturalmente rappresenta un insieme di istituzioni e di funzioni. La funzione della scuola, la funzione non è gratuita nel senso che non costa nulla, ma è anche il principale investimento produttivo, proprio perché ne dipende la sopravvivenza, ne dipende lo sviluppo economico. Perché siamo più ricchi? Non solo perché abbiamo depredato il resto del mondo, ma anche perché abbiamo soddisfatto i minimi vitali rispetto a paesi in cui si casca per terra, per fame, per malattie, eccetera. Quindi i diritti sociali sono un investimento, questo è una delle acquisizioni di Amartya Sen, io credo, per i diritti di libertà, estensibili ai diritti sociali. Gratuito significa pubblico, è uguale, è la stessa cosa. Non c'è un meccanismo diverso per assicurare la gratuità e assicurare l'universalità e assicurare l'uguaglianza, se non quello della pubblicità. La questione della tipologia di questi beni, io non credo che ci sia vero e falso in queste cose. Le categorie sono categorie teoriche, sono convenzioni, stipulazioni, si conviene intendere con bene comune, però devono essere operative. Allora, a me pare che fino a che non abbiamo una costituzionalizzazione dei beni fondamentali, nei quali includo anche quelli che ho chiamato sociali, che non sono affatto comuni, penso tipicamente ai farmaci salvavita, è chiaro che siamo al livello in cui nella storia, diciamo, del diritto moderno, quando si rivendicavano i diritti naturali. Naturalmente, categoria aperta, sotto la quale potevano essere rivendicate le immunità, le libertà, i bisogni più diversi, peraltro soprattutto quelli, è vero, delle libertà fondamentali, certamente i diritti sociali sono un fatto novecentesco, anche per le ragioni che dicevo prima, perché sono almeno quelli della salute, sono diventati soddisfacibili solo adesso. Quindi è chiaro che sono i processi sociali, sono le lotte che evidenziano storicamente, non c'è nulla di naturale, di obiettivo, evidenziano bisogni che a un certo punto diventano irrinunciabili, rompono veli di normalità che coprivano precedenti, disuguaglianze, discriminazioni, quindi è tutto storico. Però devono poi tradursi in norme di diritto positivo, altrimenti restano delle rivendicazioni. E per tradursi in norme di diritto positivo dobbiamo avere delle categorie e parlare di diritti politici, di diritti di libertà, di diritti sociali, cioè prestazioni, e quindi beni comuni, che cosa intendiamo. Io trovo interessante la distinzione fra beni comuni materiali e beni comuni materiali, che tra l'altro riproduce quella tra beni patrimoniali e materiali, che sono le merci, le cose, diciamo, e beni patrimoniali immateriali, che sono i brevetti, il diritto d'autore, eccetera. Però qua mi sembra, non c'è nulla, nessuna contestazione in via di principio, che i beni comuni materiali sono oggi oggetto di aggressione e quindi richiedono delle specifiche garanzie, fatti di divieti oppure di sottrazione al mercato esplicita, tipo il demanio, eccetera, eccetera. Mentre il discorso su, lasciamo perdere il lavoro, che francamente non mi sembra, se non, qui sono d'accordo con Alfonso, ma anche la conoscenza, c'è un'aggressione, sì, probabilmente ci sono forme di aggressione, ma rispetto a cui le garanzie sono diverse. E allora forse confondere, però è un oggetto di riflessione che possiamo certamente. Siamo insieme. Eh sì, sì, per esempio, certe tecniche, ma sì. Però bisogna tradurle in norme di diritto positivo, tendenzialmente costituzionali, e questo perché il diritto, tra le altre cose, è un linguaggio attraverso cui pensiamo i problemi e anche le loro soluzioni concrete. Cioè, siamo costretti a pensare i problemi politici, i problemi sociali, in termini tali che li trasformino in tecniche di tutela, tecniche di garanzia, in limiti, in vincoli, in proibizioni, in comandi, in obbligazioni, eccetera. Quindi ci costringe a tematizzare, altrimenti finisce per essere, mentre nella fase, diciamo, premoderna, per così dire, rispetto ai beni fondamentali, così come era premoderna rispetto alle carte costituzionali, alle rivendicazioni dei diritti naturali, sono processi che sarebbe insensato classificare, viceversa poi richiedono di essere tradotti in norme e giuridiche. E io non sono convinto che il paradigma liberale sia un paradigma, diciamo, chiuso. Il paradigma liberale ha avuto il merito di identificare una tecnica di limitazione. Pensiamo al diritto penale. Sul terreno del diritto penale la tradizione illuministica ha elaborato un modello garantista del diritto penale. Ma quel modello può essere allargato ad altri diritti fondamentali attraverso nuove tecniche. Per cui è vero che poi la tradizione liberale, che è una tradizione di classe, classista, eccetera, è disinteressata ai problemi sociali e quindi non si è occupata, mentre un po' quella socialista o comunista era diventata al diritto tu cure, quindi... Però il modello, il paradigma, è quello dei limiti e dei vincoli, e cioè disciplinare questa bestia, come la chiamava Aristotele, che è il potere, che è sempre selvaggio, è sempre, appunto, tende ad accumularsi in forma assoluta. Montesquieu, queste cose, è vera che bisogna limitarlo e vincolarlo, e questo modello, il modello costituzionale, consente di introdurre garanzie della pace, dei beni comuni, dei diritti fondamentali. Come facciamo, supponiamo, per assicurare la salute a livello globale se non costruiamo, appunto, ospedali, rete fognaria? Cioè, questo, una sfera pubblica ci vuole, e ci vogliono patti di convivenza. Sono cose a cui forse non arriveremo. Vengo qui all'ultima domanda e così concludo: com'è che non ci si arriva? Non ci si arriva per la miopia della politica, per gli orizzonti ristretti, i tempi dei sondaggi e delle scadenze elettorali. Probabilmente qui non si può farti essere ottimisti o pessimisti. Certo, ci sono stati momenti della storia in cui si è detto un mai più, no? Mai più all'Olocausto, mai più alle guerre, la carta dell'ONU, le dichiarazioni dei diritti, dopodiché abbiamo dimenticato ciò contro cui questi mai più venivano formulati, adesso ci ritroviamo. È probabile che noi non faremo in tempo, questa è la visione pessimista, a dire un mai più, perché magari il mondo sarà stato reso inabitabile. La differenza rispetto ai mai più della storia che sono stati formulati in passato e che erano mai più che potevano, almeno sul piano delle possibilità, essere mantenuti. Mai più all'Olocausto, mai più alla pena di morte, mai più ai genocidi, mai più alla tortura, alle varie forme di lesione dei diritti umani. È anche possibile che arriveremo tardi, se cioè l'ambiente sarà stato distrutto, e diremo un mai più quando... Però dobbiamo essere consapevoli che o ci sarà un mai più, non formulato sulla base di semplici norme, ma attraverso la costruzione di istituzioni di garanzie, e l'unica speranza è che a un certo punto l'interesse, diciamo, vitale, siccome viviamo tutti nello stesso pianeta, va bene, inclusi i potenti, i ricchi e i capitalisti, insomma, in qualche modo, ma questo naturalmente non consente né di essere pessimisti né di essere ottimisti. A me pare, appunto, mi rendo conto di aver fatto una difesa d'ufficio del diritto, che non esistono alternative al diritto nella costruzione della democrazia. Può ben darsi un diritto senza democrazia, ma non può darsi una democrazia, un costituzionalismo, una convivenza, diciamo, in grado di garantire i diritti di tutti senza diritto. Allora, per oggi ci lasciamo e fin da qua vi ricordate che la sede della prossima del prossimo seminario è un'altra, non è questa? Non ricordo a memoria. Aspetta, poi lo trovo sul sito.